sessualmente ambiguo, è ambiguo, perché da quello che fa capire gli piace anche un trans. A me il trans proprio non esiste. A Cruciani piacciono i trans? Ma lui l'ha dichiarato, cioè che se dovesse capitare un trans non avrebbe problemi. Quando chiama quella turca, il turco, come si chiama? Efebal. Eccoci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Efebal. No, non ho detto gioia. Tutti, dovete stare tutti a casa, devi andare a casa adesso, altrimenti viene la polizia e se la porta di peso a casa in questo momento. Andiamo. La mazza, le fidanzate con la mazza ci vogliono. Non si può stare, ci ammaliamo, è un'emergenza nazionale. Non è una cosa giocata, non è che sono immagini, quelle che arrivano da Milano, da Bergamo, non è che è un telefilm. Sta succedendo veramente, stanno morendo le persone, come ve lo devo spiegare? Mi farete ammalare pure a me, di crepacuore mi farete ammalare. Non avete paura, che noi, la nostra Italia, scomperemo questo coronavirus da parte mia e noi ci vengeremo questa vittoria. Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, noi scomperemo questi coronavirus, la nostra Italia, Italia, Italia. E in più, tu sei giudeo. E i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato nostro Signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato questo fatto? Ma certo, eccellente. Lo senti? Il governo ci rassicurò che saremmo usciti tutti il 3 aprile, invece... Sono passati 60 anni. E io ho una voglia matta di cazzo. A cazzo duro, Crucio! A cazzo duro! Lo diciamo qui, fuori dal coro. Perché altrimenti non ve lo dicono. E adesso dov'è quel testa di cazzo di Gottardo, quell'imbecille, i suoi numeri, dove cazzo sono? Quel ciccione da McDonald's del cazzo, che la mortalità sfiora il 9%. Dove cazzo sono i suoi numeri, quell'imbecille, cretino, ciccione di merda? Ciccione di merda. Nessuno tocchi Gottardone! Croce Lenzo! Sempre in diretta qui dal bunker di Via Monterosa, si resiste con David Parenzo a casa sua a Roma. Applausi, applausi, applausi, applausi. Buonasera amici, buonasera, buonasera. Da Padova, sempre col pullman vuoto per andare alla sua radio, Caffè. Radio Caffè. Certo. Alberto Gottardo, applausi, applausi. Applausi all'autista, all'autista che guida l'autobus. Con la mascherina o senza? Mascherina o senza? Senza mascherina. Senza guanti. Molti autisti anche a Milano sono incazzati per questo, perché dicono che non hanno protezioni. Servirà, certo. Non servirà. Sicuramente serve anche dal punto di vista psicologico, sicuramente. Anche se sull'autobus non c'è nessuno e tu hai la mascherina o hai i guanti, comunque in qualche modo serve, ragazzi. Non c'è dubbio. Dietro. Serve anche in condizioni normali quando sale sull'autobus Cruciani. Questo è vero, questo è vero. In generale sull'autobus, in regia abbiamo il signor Lacorte che è con la mascherina e con i guanti, anche il signor Poli oggi mascherina e guanti, quasi praticamente obbligati a stare in 3-4 metri quadrati, forse anche meno, 2 metri quadrati nello stesso luogo a distanza, però con le protezioni del caso, le protezioni. Certo. Allora, poi dice che non ho ragione, il ministro dello sport Spadafora, cosa ha detto? Che è praticamente un fedelissimo del Presidente del Consiglio. Nelle prossime ore ci potrebbe essere il divieto di correre all'aperto. Ora ragazzi, io oggi giravo per Milano, sono venuto qua alla radio, non è che giravo per Milano, ho fatto il solito tragitto col motorino, casa, radio, mi sono fermato a cercare un giornale all'edicola. Ho visto due, anche se devo dirti la verità, non ho visto una macchina delle forze dell'ordine. Poi per carità ci saranno, però circa all'una non c'era una macchina delle forze dell'ordine. Ho visto due persone, sicuro, ma non lo so, ma è un caso. Ho visto due persone sedute su una panchina. E così mi è venuto da dire: ma scusate, ma che accanto all'edicola, ma che stracazzo fate seduti in panchina? Così proprio seduti in panchina. Questi loro? Qua mi hanno detto: prima di dirmi, beh, fatti i cazzi tuoi, cose che mi hanno detto successivamente, hanno detto: beh, certo, siamo usciti a prendere una boccata d'aria. Una boccata d'aria. Ma la colpa non è loro, non è loro la colpa. Non gliel'hanno detto chiaramente, non hanno messo la polizia, le forze dell'ordine, i militari all'angolo delle strade. 10 minuti fa ho sentito il presidente della regione Lombardia Fontana. Fammi sentire in una conferenza Io credo che nelle prossime ore bisognerà prendere in considerazione anche la possibilità di un divieto completo anche all'attività all'aperto, perché quando noi abbiamo lasciato questa opportunità l'abbiamo fatto perché anche la comunità medico-scientifica ci diceva di dare comunque la possibilità a molte persone di poter correre anche per altre patologie sanitarie, però l'appello generale era restare a casa. Se questo appello non viene ascoltato saremo costretti anche a porre un divieto assoluto. Ragazzi, ma per forza ci vuole l'esercito all'angolo delle strade. Se la gente non capisce l'autoregolamentazione, la gente non è stupida, se lo spiegano c'è gente in continuazione. Che porta in giro il cane 5 volte al giorno qualcuno dovrà comunque portarlo sempre in giro una volta. Cercate di regolarvi, fate cagare il cane in casa, volevate il cane, fatelo cagare in casa. Figurati. Fatelo pisciare in casa e non rompete i coglioni con sti cani. Io non capisco, lo stanno spiegando in tutti i modi come fare. Ancora forse non hai capito chiaro, che dici, la dissuasione. No, ma certo, perché la dissuasione non serve, serve l'esercito all'angolo delle strade. Ma l'abbiamo capito tutti noi, ma se l'abbiamo capito tutti noi, io veramente non riesco a capacitarmi di un paese dove non c'è senso civico. Scusa Gottardo, ma secondo te Parenzo sa che ci sono degli idioti irriducibili o no? Ma anche persone che hanno semplicemente... Ma lo so, chiamano tutti qui, lo so perfettamente, c'è gente normale. Io credo che l'esercito però... la libertà, è irriducibile. L'esercito però, Giuseppe, tu dici una parte della storia, l'esercito da solo, senza regole di ingaggio militari, quello serve meno dei vigili urbani. Certo. Ci vuole l'esercito e la legge marziale, allora. No, e non c'è dubbio. Per me ci vuole la legge marziale e coprifuoco. Dilla tutta. Ma no, la dico tutta. Dobbiamo sparare sulla gente. Legge marziale e coprifuoco. Se ti trovano fuori, senza una ragione chiara, stabilita chiaramente, ti prendono e ti portano in galera. Deve essere chiaro o no? Ma figuriamoci. Scusa, a proposito di galera, voi che cosa fareste a questi 249 che si sono messi in malattia all'ospedale Cardarelli di Napoli? Allora, ragazzi, sono traditori della patria. Giusto. No, ragazzi, io dico solo una cosa. Purtroppo, il problema vanno è che non si riuscirà. No, giusta causa. Se ma, non è, ma certo che andrebbero. Giusta causa, certo, vanno licenziati. Ma no, fine. Ma che cosa strana. Certo che andrebbero subito licenziati. Il problema è che non li può licenziare perché strano hanno fatto. Che non se ne sia. Hanno fatto tutto regolarmente. Ma non si è accorto il direttore della. Il direttore. Ma che dici? Ma è lui che l'ha denunciato. Ma non sai un cazzo. È lui che l'ha detto. Perché se l'è accorto subito. No, questo ho letto tutto. Ma è una. Sono. Da quanti giorni si sono messi in malattia? Hanno prodotto certificati falsi. Ma da quanti giorni sono messi in malattia? Hanno prodotto loro certificati falsi. In questi giorni hanno prodotto loro certificati che lui stesso. Infatti è un reato e vanno tutti in galera. Sì, il problema è che sono falsi, secondo quello che dice questo, secondo diciamo le regole formali. Sono inattaccabili. Sono inattaccabili. No, se sono falsi. Ma che dici? Perché la visita fiscale va a casa a tutti, a chiunque arriva a casa. Io la visita veramente fiscale. Qualche volta non so, Gottardo, non riesco a capire se vive nel mondo delle nuvole o nel mondo reale. Il meraviglioso cioè, mondo pensa, di Amelie. Lui pensa che questi qua a Napoli fanno le cose e poi si fanno fottere dalle visite fiscali. Hanno i certificati che sono veri con i medici la che realtà, li proteggono. Questi vanno presi, non cacciati a pedate nel culo, non c'è dubbio. Purtroppo non si riuscirà a fare fare perché è tutto regolare. No, questi sono dei tramacchi. È un reato, ma quale regolare? Vabbè, è incredibile. Ma certo che è regolare formalmente. Sembra che in galera non ci vada nessuno, da come lo dici tu. Sembra che in galera non ci vanno questi qua che hanno prodotto certificati. Questi vedrai che verranno licenziati. Ma vedrai che questi intanto verranno, se non altro, sospesi in prima istanza e poi licenziati. Dei magistri se ne dice una giusta. Sogna. Questa è una guerra in cui molti soldati stanno combattendo in prima linea senza elmetto, senza giubba e nemmeno senza armi. Parliamo ai nostri eroi, quelli che ha citato lei prima, rianimatori, medici, infermieri. Poi ci sono i vigliacchi, ci sono i traditori, ci sono quelli che se ne scappano. Combattiamo chi non deve uscire stando a casa e i vigliacchi colpiamoli come vigliacchi, cioè chi è un traditore va colpito, va messo fuori, per me va licenziato. Per me chi abbandona il campo di battaglia in questo momento non bisogna fargli il procedimento disciplinare. Per me va licenziato. Sì, e con quali pezze d'appoggio? Ma ha ragione, certamente, ha perfettamente ragione. Solo che con quale pezze d'appoggio lo fai? Non ho capito. Vanno presi i medici che producono. Ma con l'inchiesta della magistratura. Con l'inchiesta della magistratura. Buonanotte. L'inchiesta. E come fai? Così? Niente. Ma purtroppo basta, non puoi fare un cazzo di fronte a questi criminali, traditori, figli di puttana, perché tali sono. Perché vorrei vedere, questi qua dovrebbero vedere le facce delle persone che lavorano a Bergamo, che lavorano negli ospedali del nord indefessamente, probabilmente anche oltre i loro turni. Questi codardi, con pochi casi in campagna, relativamente a pochi casi in campagna, si danno malati perché non vogliono andare. 249 persone non vogliono andare al Cardarelli. Tu ti rendi conto o no? Ma io dico per Napoli, potrebbe essere anche una società. Va detta una cosa, saranno decine di migliaia i lavoratori negli ospedali campani che sono andati al lavoro. Io vorrei sottolineare anche questo. Non c'è dubbio. No, questo è vero, assolutamente. Musumeci, che è uno dei più duri, il presidente della Sicilia, Musumeci. Bisognava requisire le aziende come in guerra. Andava fatto prima, ai primi di marzo, bisognava requisire 2-3 aziende, collocare un dirigente dello Stato e dire voi da domani producete questo tipo di prodotto. Si fa così quando si è in guerra, non si cerca il mercato, Consip, si fa la gara. Per me c'ha ragione Musumeci, non so adesso, per carità, c'ha ragione Musumeci. Cioè, se uno dice di essere in guerra, ragazzi, negli altri paesi non si faranno problemi. Sì, dopodiché, perché Gallera, che è l'assessore in Lombardia, ha detto che è successo anche da te in Lombardia questa cosa. Forse. Non, come al solito, non l'hai letta tutte le cose. Però per carità, va benissimo l'ideologia contro Napoli. No, ma che Gallera, Napoli? Gallera i dice, no, siccome dici a Napoli perché è uscito fuori i medici del Cardarelli. Gallera ha detto. Il fenomeno non riguarda soltanto la Campania, anche noi in Lombardia abbiamo segnalazioni non da ospedali, ma da alcune residenze sanitarie assistenziali per anziani di un grosso calo di personale. Però vabbè. Ma non c'entra nulla, è la stessa nulla, inchiesta, è successo anche in Lombardia, allora, purtroppo, in alcuni casi. Allora, lo dice Gallera, non c'entra nulla con non c'entro nulla con quello che ha detto lo stesso responsabile del Cardarelli, che ha detto qui ci sono delle persone, 249 operatori sanitari che si trovano in malattia. E che si nascondono dietro un certificato medico fasullo, lasciando i colleghi da soli a lavorare. Non è la stessa cosa. Numeri diversi, anche in Lombardia lo ha detto Gallera. Ma certo, i numeri sono fondamentali. Ma guarda, l'unica droga mia è la figa, Grucci. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Ecco, io e Cruciani cosa fanno i drogati? Vanno alla PAM a comprare le baguette. Madonna. A mio discapito, capito? Poi ovviamente che succede? Succede che il Cardarelli di Napoli, con l'azienda ospedaliera che precisa, non abbiamo malati immaginari, sono 33 gli operatori sanitari assenti giustificati per malattia, però è stato il direttore delle emergenze che ha detto in 249 si nascondono dietro un certificato medico fasullo. Ma di che parliamo? Cioè, prima quello parla di 249 operatori in malattia e parla di certificati fasulli. Poi c'è la precisazione dell'ospedale. Il solito gioco, ragazzi, il solito gioco. Allora, il fantastico sindaco di Tursi, che fa parte di tutta quella schiera di sindaci che si scagliano contro i cittadini che non rispettano le regole, eccetera. Sindaco di Tursi, provincia di Matera, se non sbaglio, no? Provincia di Matera, vai col sindaco di Tursi. Adesso arriva, sindaco Tursi, Matera. I sindaci spesso sono molto incazzati. Poi si trovano casi come quello l'altro giorno di non so dove, in provincia di Napoli, che naturalmente diceva tutti a casa, e poi andava a abbracciare tutti gli operatori sanitari. Pertanto veramente ve lo chiedo con il cuore. Io veramente ci sto mettendo tutta la mia passione, la mia determinazione, come sono abituato a fare in tutte le cose. Ma ora basta. Bisogna stare a casa, perché altrimenti tremerete nel momento in cui arriverà un caso a Tursi, e poi vedremo come va arrivo tu stronzo in culo. Chiedermi se ancora potete andare a passeggio, non è possibile. Allora a questo punto ho dato finalmente mandato ai vigili, per quello che voglio dire riescono a fare, a sanzionarvi. Perché io l'unica cosa che posso fare, non avendone il potere purtroppo, ma posso ruppare un muso a alcuni. Così andrà a finire. Che la pazienza la perderò e anche un legge a sbatto di capo vicino un muro. Questo, diciamo, andrà a finire. È così. L'infettivologo Galli dice che c'è bisogno di mappe di Milano con i contaminati. Tu ti rendi conto? Mappe di Milano con i contaminati. Beh, già adesso usano i dati dei telefoni, mi pare, no? Non mi pare. Abbiamo la necessità di avere una specie di mappa che ci dice via per via, casa per casa, dove sono le persone risultate positive al test nella città di Milano e nei comuni limitrofi. Perché in questo modo si può cercare di identificare e di intervenire situazioni che ti diventano rosso fuoco perché diverse persone sono concentrate lì. Bene. Non è che controllano i contaminati, controllano quanta gente c'è in giro con le celle telefoniche, in generale. Con le celle telefoniche, no, certo. Non è cognome, scusatemi, con il domicilio di quelli che finiscono in pronto soccorso, magari sarà anche abbastanza agevole farla sta cosa o no? Boh. Porro, ragazzi, porro. Grandissimo, guaritissimo ormai. Il quale sì, guarito, insomma, comunque, sempre in quarantena lì, sempre in casa, sempre rinchiuso in casa, combatte. Che è incazzato per questa idea, non so se sia realtà, di 12 anni di galera se va in giro positivo. Ma ragazzi, però, se uno va in giro, è positivo e va in giro, giustamente deve andare in galera. Di esserlo, ma minimo, e sa di esserlo. E sa di esserlo, ovviamente. Ragazzi, ma la galera è minimo. È un criminale. La galera è il minimo, la galera, però non saranno 12 anni. Poi, sai, si sparano le cose 12 anni e poi finisce a tarantuccio. Sono lesioni colpose aggravate. Sì, ma per carità, per cui... ma per me deve andare in galera con i ceppi e pure al pubblico ludibrio, pure mostrato in pubblico. Questo è uno che voleva infettare gli altri italiani. Questo bisognerebbe fare. Porro incazzato, però. Sentiamo. Divieti violati. Pene più severe, si arriva fino a 12 anni di carcere se viene trovato qualcuno positivo in giro. 12 anni di carcere, cioè, come direbbe Gherardo Colombo, no, come si chiamava il magistrato, non Colombo, vabbè, avete capito, Davigo, conviene stuprare o uccidere rispetto a essere trovato in giro oggi positivo con il coronavirus. Sì, però scusami Nico, non c'entro cazzo in questo caso. Io capisco che la libertà eccetera eccetera, però sono cose diverse. Che in Italia ci siano delle pene troppo basse magari per alcuni reati, questo è vero, all'assalto, all'attacco, però non c'entra nulla, grida in questo manzoniane caso. Vai. hanno utilizzato le celle dei cellulari per vedere quanti Milani stessero nelle loro residenze e quanti fuori. Cioè controllano con una specie di grande fratello se state a casa vostra o state fuori. Quindi si presume che loro sappiano qual è la vostra casa, qual è la vostra residenza, dove state passando il vostro tempo, posto che non sta scritto da nessuna parte, ancora siamo in un paese libero, che uno non possa risiedere in un posto diverso rispetto a quello che risulta alla TIM o alla Vodafone o alla 3 o a chi cazzo è il gestore nostro di telefonia. Ragazzi, mi sembra che siano pippe mentali, posso dire una cosa? Questo pippe è un tema in no, parte. No, ma non c'è, nessun, non, c'è non c'è nessun tema. In loro questo, hanno già spiegato se che uno i dati vuole, è fatto in accordo sì, con le ma se uno vuole ti rintraccia ovunque, anche oggi, sanno tutto di tutti, sanno... Beh, ma ci deve essere l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria sì, però per certo, farlo. Sì, certo, ma, questi casi, ma in questi casi, posso dirti, la privacy deve andare a farsi fottere. Cioè, allora deve essere detto però, chiaramente. Come in Israele l'hanno detto, hanno fatto un decreto e hanno detto chiaramente che... Ma deve essere fatto però. Non che Giordano fa un accordo. Giordano. L'Europa ci blocca. In questa fase qui, l'Europa ci blocca le mascherine al confine. Contro l'Europa. Ma non è vero l'Europa. Ma non è vero che l'Europa le blocca. È il contrario. È la Germania che le aveva bloccate. L'Europa è intervenuta. È esattamente il contrario. Eh sì, è così, è sbagliato. E allora io mi dico. Io mi dico di questa Europa che non è stata in grado di fronteggiare l'emergenza sanitaria, che non è in grado di gestire l'emergenza economica, in cui paesi alleati bloccano, l'abbiamo sentito, le mascherine, bloccano i confini, si stanno bloccando i confini, tutti i presupposti storici su cui è nata questa Europa sbagliata, malata, stanno cascando. A lei Alfonso da Napoli, avanti tutta. Alfonso, dimmi, avanti. Buonasera, salve, mi sente? Dimmi Alfonso, dimmi. Allora, ti volevo sapere, com'è possibile che una testata giornalistica, prima di inviare una notizia, naturalmente sempre contro Napoli, non la verifichi? C'è stata una smentita del direttore generale del Carcere. Guarda che lo stesso, è stato uno dei responsabili sanitari del Cardarelli a parlare di questa cosa. Non sono stati i giornali. Guardi il comunicato. Ma che me ne frega dopo di le smentite? Ma ci sono sempre state le smentite. Ci sono sempre state. Direttore generale. Napoli, 249 dottori malati immaginari. Il direttore dell'emergenza del Cardarelli, paura Covid, ma, certificati medici fasulli per stare a casa. Per loro provo solo commiserazione. Io altro provo, oltre che commiserazione. Ma non lo so che cosa ha smentito, ma è sempre un gioco delle parti. È un gioco delle parti. Che solo al Cardarelli ci sono 10-11 dottori infettati. Ci stanno altre persone in quarantena. Lorenzo da Bologna. È normale avere paura, ma se uno fa l'infermiere deve andare a fare l'infermiere senza rompere i coglioni, con le protezioni ovviamente, con tutte le protezioni del caso e la sicurezza del caso. Ma se ti metti in malattia ed è una falsa malattia, devi essere ed è successo anche in Lombardia, sì, quanto dice l'assessore Gallera, non con questi numeri. Quando c'è una residenza sanitaria essenziale, quando Lorenzo c'è una alluvione, non è che i vigili del fuoco, no, ma è per completezza di informazione. Lorenzo da Bologna, dai, chissà perché, chissà perché in prima pagina c'è il Cardarelli, non ci sono le strutture sanitarie che no, dice no, ma ti sbagli, allora, se tu dai. Guardi sul fatto ti sbagli, vabbè, perché Lorenzo leggi quello da che ti Bologna. Pare tu, leggi solo la verità. Prima pagina sul cosa c'è? Ma che c'è in prima pagina? Il Cardarelli, ma che c'è? Ma guarda cosa ha detto Gallera, ma sì, l'ho detto, dai Lorenzo, dimmi. Ciao. Allora, io volevo fare una precisazione, anzi fare una considerazione. Sì. Come è possibile superare una crisi come questa, che ha risvolti economici, sanitari e sociali, con una classe politica, soprattutto diciamo regionale, provinciale e comunale, che per parlare del virus dice il coronavirus? Che quando parla ma quello è un sindaco, dai, è un sindaco. Appunto, vabbè, Lorenzo, appunto, allora, dunque, che di cosa volevi parlare? E poi volevo chiedere a Gottardo, siccome sentivo ieri che ero in macchina, se è ancora dell'idea che questa sia soltanto un'influenza. Nel vabbè, caso, abbiamo già detto, no, dai, abbiamo già detto, hai parlato di virus caso. Burletta, sì. Hai parlato di virus burletta, secondo me parlando di virus burletta hai detto una mezza cazzata. Dopodiché, no, chi se ne frega, siamo oltre. Non mi sembra di averlo mai detto. Sì, sì, l'hai detto, ma andiamo oltre, non ce ne frega un cazzo. Ma in ogni ormai. Caso, ti do un dato, ha sbagliato, è chiaro che ha sbagliato. Dopo, protezione civile dai dati. Dopo. One Express, il pallet espresso. Vi presenta la zanzara. Buongiorno a tutti, se appena... Scusate che c'è un ritorno. Abbiate pazienza. Un attimo, abbiamo problemi tecnici. Giuseppe Conte. Buongiorno a tutti, se appena... Scusate che c'è un ritorno. Abbiate pazienza. Vai in giro a fare il galletto su tutte le televisioni, il fazzolettino, il naso aquilino. Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici. Una comunità di individui, come direbbe Norbert Elias. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Sono Richard Benson e ricordatevi una cosa, io resto a casa, come dice il governo, e non sono mai morto, ricordatevelo, non sono mai morto, che il rock e il metal stiano con voi. Tra poco ci saranno altre canzoni che vi dovrò proporre. Ciao da Richard Benson. Richard Benson è tornato pure lui a dare i consigli alla gente di restare a casa. Però ragazzi, voglio farvi riflettere sulla... Ah, su quello... è di adesso questo audio? Sì, sì, è di adesso. Ah, figurati. Cioè, è sempre un po' il clima. Che succede, Richard? Non ho capito. Al mio discapito, capito? Il tuo discapito, sì. Voglio farvi riflettere su quello che l'altro giorno ha detto la signora Martani, perché ha suscitato un po' di discussione. La signora Martani ha detto delle cose incredibili, incredibili. Innanzitutto ha detto che se il mondo fosse vegano non ci sarebbe stata questa epidemia di coronavirus. Va proprio bene, così, se il mondo fosse vegano... Noi siamo gli unici che evitano che si diffondano questi virus, perché chiaramente mangiando la carne, mangiando certi tipi di animali si diffondono questi virus, e noi invece li evitiamo, perché io non ho mai sentito un virus, che deriva da, che ne so, dai ceci, dai fagioli, dalle per verdure. Cui mi stai io dicendo che se il mondo fosse vegano non ci sarebbe stato il coronavirus, questo è il punto? Assolutamente sì. I vegani hanno meno possibilità di ammalarsi, secondo la signora Martani. Ovviamente non lo dice nessuno, lo dice solo lei, ma comunque. I vegani hanno meno possibilità di prendersi il virus, ma te lo spiego il motivo. Questa è grossa novità. Il sistema immunitario di un vegano è molto più elevato rispetto a chi mangia carne. Questa mi sembra una stronzata, però... E poi il mondo si sta riequilibrando. Praticamente la natura sta prendendo la sua rivincita sulle nefandezze dell'uomo, secondo la signora Martani. È la natura che si sta ribellando. Non si sta ribellando, si sta riequilibrando. Questo è grave, però, il riequilibrio della natura. Cioè, tu lo dici certo. Così come se perché no. Tu odi gli esseri umani, odi l'umanità, odi gli uomini. Io non odio gli esseri romani, io odio gli esseri umani che distruggono il pianeta, questo sì, lo ma hai sempre, dire. Hai sempre detto che l'estinzione è una cosa positiva, cioè vuoi l'estinzione degli esseri umani, dunque secondo te se muoiono un po' di persone, a te non te ne frega un cazzo, questo è il punto, e dai. Ma non è quello, non è che non me ne frega un cazzo, il problema è che qua stiamo utilizzando le risorse che non ci stanno più e il pianeta è al collasso totale, che dobbiamo fare, ma lo vedi che ciò sta succedendo? Riccardo da Siena, torniamo sulla terra. Riccardo da Siena, vai, vai. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Dimmi, saluto, dimmi. Davide, Giuseppe, Alberto. Dimmi. No, sono un operatore sociosanitario, ho fatto richiesta, sono tirocinante, di poter andare in reparto in questo momento a Firenze, che c'è bisogno. Altro che Cardarelli, dici, no? Altro che Cardarelli. Io voglio lasciamo perdere, volontario va. A fare questo lavoro. E sento che nel popolo partenope si... diciamo si prende queste sue libertà, cioè libertà, ci sono una serie di persone, non so quante, Calcardarelli, poi adesso arrivano le smentite eccetera, ma l'hanno detto loro, è stato un direttore sanitario, un responsabile del Cardarelli a dire, poi naturalmente adesso correzioni, rettifiche eccetera eccetera, a dire non ragazzi, lo so, vediamo, c'è vediamo un problema, le indagini, i dati. C'è un problema grave di gente che si inventa certificati medici. Chi ha paura non fa la guerra. A Siena si dice chi ha paura sta a casa, che fa più bella figura, ecco. No, ma certo. Chi ha paura sta a casa. E sì, ma tu che fai? Tu che fai? L'infermiere? Di lavoro. Sì, ma tu che fai? L'infermiere? Che fai? Sono operatore sanitario. Che vuol dire concretamente? Quelli che puliscono. Bravo, hai ragione Gottardo, si pulisce, però si dà una mano anche noi, si fa parte anche ti tengono salvo dalle piaghe, esatto. Sono quelli che in terapia intensiva non ti fanno venire le piaghe, sono importanti quanto gli infermieri, perché altrimenti se no muori scarnificato. Facciamo anche i flit noi, Gottardo, so se lo sai. Certo. Sì. Facciamo anche noi, quindi... Va bene, grande Riccardo, vai, avanti tutto. Bravi. Però volevo dire un'altra cosa. Che volevi dire? Dimmi. Al terrapiattista Gottardo, perché secondo me ora fa parte anche lui. Come quello che si è schiantato, il terrapiattista, anche lui ora secondo me sta prendendo la piaga. Non esagerare, del terrapiattista. Certo. No, ma spiegami perché. Allora? Spiegami perché, Riccardo. No, ascolta, Alberto, non diciamo cazzate. Dimmi. Dai, su. Dimmi, Riccardo. È evidente, cioè questa è una cosa evidente, cioè nel senso, Alberto, non diciamo stupidaggini. Capisco che te ti hai ritenere questo ruolo. No, non è nessun ruolo, Riccardo. Riccardo, ti posso... Però posso dire una cosa a difesa di Gottardo? Aspetta un attimo, aspetta un attimo, Riccardo, scusami, posso dire un dato di oggi che è stato diffuso dai suoi superiori di sanità, che va incontro alle cose che dice Gottardo. E dopo te ne do un altro. Questo signore qua, che si chiama Brusaferro, ha detto che i morti, poi non c'entra niente con la situazione degli ospedali, che è drammatica, lo sappiamo e tutto, però i morti per corona accertati dalle cartelle cliniche, su 2500. Vabbè, quelli che sono 12. Sono quelli 12. Diretti. Ha dato diretti. No, non vuol dire niente, però dire qualcosa. Altrimenti che lo danno diretti. A fare sto dato, se non serve, servirà pure questo, no? Dai. No, l'età media, l'età media di questo, è 80 anni, l'età media è ancora questa storia. E ma perché i vecchi devono morire, di non ho quelli capito. Che sono morti, il 50% di quelli che sono morti avevano tre patologie o più. Ma sarebbe come sui dire, dati uno della uno Protezione Civile. Cammini per strada, uno ti spara, c'è un vecchio che cammina di strada, uno ti spara e dice no, è morto perché era vecchio, no? Perché ti ha sparato. No, aspetta, mi correggo, scusa, 12 morti senza patologie, cioè 12 morti, esatto, non per coronavirus, 12 quindi morti diretti, senza avere nessuna patologia. Diretti, non concorrenti. Giorgio da Palermo, dai, Giorgio da Palermo, aspetta, dopo. Giuseppe? Dimmi. Vabbè. Ma non vuol dire niente, no, il dato è che noi oggi abbiamo avuto lo stesso numero di nuovi contagiati del 12 di marzo, quindi di una settimana fa, quando teoricamente... Vabbè, il dato è stabile, il dato è stabile. Il contagio... Allora... No, non è stabile, perché il 12 di marzo facevamo 12.000 tamponi, oggi ne abbiamo fatti 165.000. Vabbè, adesso questo non ti avventurare. C'è un'incidenza che è un decimo dei positivi sul numero dei tamponi. Adesso vediamo. Giorgio da Palermo. Giorgio da Palermo. Ma io dico, ma che centro che dati Gottardo? Giorgio da Palermo. Mamma dai, Giorgio. Mia, allora, ognuno elabora i suoi dati. Che cazzo ma per carità, è? Giorgio, ma dici. Certo, uno può anche dire. Magari che qualcuno c'è ci prende ogni tanto. Qualcuno ci dà in valore assoluto, non funzionano. Giorgio, sì, questo non ma c'è dubbio. Ma li darà la Protezione Civile il valore ai dati, sì, no? Non li contestualizza, solo due volte alla settimana. Il dato che ha dato Giuseppe è solo sul report. La Protezione Civile ti danno i dati grezzi. Improvvisamente dice, ragazzi, ti danno, perché bisogna sapere trattare. Gottardo dice così, vabbè. Giorgio da Palermo. Però finora ho sempre avuto ragione. Ma quando mai che dicevi che era un'influenza una settimana fa? Giorgio da Palermo, vai. Risentiamolo. Volevo chiedere a Parenzo perché è così cattivo? Cioè, se l'hanno bullizzato alle elementari. Ma con chi? Con chi? Non ho capito. Ma con Gottardo, ad esempio, tipo, erano migliori amici, ora la qualunque. Le discussioni esistono, la vita è fatta di discussioni. La vita è fatta di discussioni. Vabbè, non rompere il cazzo, dai, Mauro dalla provincia di Pavia, dai, non è un cazzo da dire, questo sta da solo, lo capisco, sta a casa, vuole un po' di compagnia. Mauro dalla provincia di Pavia, dai. Buonasera, senta, volevo parlare col cugino magro di Adinolfi, il professor Gottardo. Eccolo qua. Te l'eri preparata questa, però, eh? Tutto il pomeriggio, guarda, che ci pensavi. Ascolta, ma io volevo sapere, non riesco a capire come mi devo comportare, se devo uscire con la mascherina, no? Visto che tu sei un perché grande io biologo, lo chiedi a Gottardo. Da Padovano. No, Mauro da Pavia, sai cosa deve fare? Deve smettere di respirare. Se lei smette di respirare, sicuramente non viene contagiato dal virus. Questa e questa non me l'ero preparata tutto il pomeriggio. Pensi quanto stronzo sono. Mi vengono così. Da Radio Caffè, in quanti ti ascoltano? Certo, tutte le mattine. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Vuoi? Dimmi no, Mauro, che vuoi? Appunto, volevo sapere come comportarmi dall'umanoide del fratello più magro. Smetta di respirare. Se lei smette di respirare, il virus non entra nel suo corpo. Rosario da Palermo, avanti tutta, Rosario da Palermo. Dimmi. Ciao ragazzi. Dimmi Rosa, allora, dimmi. Io mi trovo in autostrada, fino adesso ho fatto l'altro ieri, fino adesso 3406 chilometri. 3400 chilometri da dove? Scusa, stai andando verso Palermo? Sud, io sto andando ora a lasciare il mio collega in Puglia. Ma non si può, non si può circolare, ragazzi, non si può circolare. Sì, lo so, e ti spiego perché sto circolando. Perché il punto dove voglio arrivare, sono partito 2 giorni fa dal sud vicino di Gibilterra, dal sud della Spagna. Addirittura? Perché dovevano cambiare, dovevano chiudere le frontiere, ci siamo? Beh, ma che cosa c'entra? Ma stavi in Spagna, resta in Spagna, che cazzo torni in Italia? No, in Spagna, dove? Io sono stato sbarcato obbligatoriamente dalla nave, dato che lavoro sulla nave. Ah. Perché dovevano chiudere le frontiere, non c'erano aerei e ci hanno lasciato in mezzo... ci hanno lasciato in mezzo alla strada. Abbiamo noleggiato, con i miei colleghi con la macchina. Sì, ma come fai a riportare sta macchina? Come fai a riportare sta macchina indietro? No, ora la lascio noleggiata, la lascio in un noleggio. A Reggio Calabria la lasci, ma roba incredibile. A Reggio Calabria perché non posso imbarcare la macchina. Non me la fanno imbarcare. Ma non ti ha fermato nessuno in Italia fino adesso? Ecco, qua volevo arrivare. Io passo la prima frontiera, che è quella dalla Spagna in Francia, e passo. E vedo dalla parte spagnola e francese tanti poliziotti. Mi passo quella italiana, vedo dalla parte che entro dall'Italia in Francia, pieno di poliziotti, in Italia una pattuglia della polizia con un uomo e una donna dentro. Non ho potuto fare la foto perché guidavo. Una pattuglia che parlavano per i fatti loro, in un angolo, e sono passato. Sono andato a Trieste a lasciare un mio collega. Ma che cazzo di giri hai fatto? Hai fatto Cadice, non so dove. E ancora, sono per strada, 3 giorni che cammino, 3 giorni. Era un peccato, scusi. Rosario, era un peccato non avere 20 kg di marijuana, doveva portarsi via dalla Spagna, da Gibilterra. Almeno ci si pagava il viaggio. Aspetta un attimo, aspetta Rosario, che poi non si capisce un cazzo, fermola. Ogni nostra storia, piccola o grande, racconta di una linea. Una soglia oltre la quale siamo passati, a volte senza accorgercene, altre dopo mesi o anni di lavoro. Linea d'Ombra non si limita più a raccontare i vizi capitali, ma tutte quelle storie che hanno segnato un confine nella nostra vita. Scrivetele in 1 o 2 pagine e inviatecele a lineadombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci costruiamo intorno a una puntata. Linea d'Ombra di Matteo Caccia. Dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. Cinema, voli aerei, giochi, libri o web. Una vita di piccole grandi cose. E dietro sempre lei, l'economia. Sono Anna Migliorati e vi accompagnerò alla scoperta dell'economia delle piccole cose. Perché conoscere aiuta a scegliere. Vi aspetto ogni sabato dopo il GR delle 7 su Radio 24. La Zanzara. Mauro, che è Mauro? No, vabbè, Mauro, dai. Ma perché mi avete messo in mezzo Mauro adesso? Ha chiamato Mauro, qui passa tutto al centralino. Non si capisce un cazzo di quello ma che dice. Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Mauro, mi hai rotto i coglioni. Ma vai da un logopedista. Ma non si capisce quello che dici. sei finito, sei morto. Sei finito, sei finito. Ma che parlare? Poi, tra non le altre si cose, capisce. Tra le altre cose, il cellulare nuovo l'ha comprato con reddito di cittadinanza. Lo compra con il reddito di cittadinanza il cellulare nuovo. Ma scusami, Mauro, dove l'hai comprato con reddito di cittadinanza? Certo, il telefonino, naturalmente. Certo. Mantenuto da Mantova. Certamente. Ma sei un mantenuto. Mantenuto, vergognati, mantenuto da Mantova. Mantenuto da Mantova. Mantenuto da Mantova. Perché il coglione di Cruciani, d'accordo con gli altri due imbecilli del centralino, hanno storpiato la mia voce per... dicendo si sente male, invece è tutta una balla, per rovinare il mio intervento perché vogliono affossarmi. Quale città il sindaco fino alla settimana scorsa parlava di avanguardia nella lotta al coronavirus e sembrava che dovessero salvare tutta l'Italia, e oggi apro il giornale, 250 medici e personale sanitario imboscati a casa, finti malati per non presentarsi al lavoro. Mamma mia, che fastidio sti cazzo di coglioni che dichiarano che sono autodeterminati, che sono soggetti di diritto internazionale. Mamma mia, ci abbavilate nei denti, andrebbero presi questi. A parte che quel coglione ha citato tutte norme sbagliate o comunque completamente a cazzo, che non significano assolutamente niente. Ma poi, ma puoi dire una cosa del genere? Ma se io fossi stato un poliziotto di uno stato normale, non dico di uno stato dittatoriale, di uno stato di polizia, uno stato normale, l'avrebbe preso, gli avrebbe fatto fare 2 giorni in galera in attesa dell'autorizzazione del magistrato, e passava la paura, e così evitava di dire stronzate, quel coglione di merda. Invece in Italia praticamente i poliziotti sono trattati come dei pagliacci, e questa per colpa di gente di merda come Parenzo e Gottardo, i soliti pagliacci pure loro. In questo periodo di quarantena ormai le seghe non le conto manco più, me le faccio a ruota, si può dire, tutto il giorno, ma una in particolare è stata la più goduriosa ed esplosiva di tutte, quella che mi sono fatto quando hai detto che Sgarbi è stato denunciato. Ah, mamma mia, che goduria se ci penso, mamma mia. Eccolo. Allora, vi annuncio tra poco Vittorione Sgarbi da casa sua, grande ritorno dopo quello che ha detto, dopo quello che è successo, dopo questa specie di marcia indietro che ha fatto, sentiremo dalla sua viva voce. Ahimè, ragazzi, evidentemente si è accorto, combattere. Evidentemente, i dati gli stanno dando ragione, lui ha esagerato, però i dati stanno dando ragione a chi? L'ISS, i report dell'Istituto Sanità Superiore della Sanità. ISS, ma cosa? Certo. Allora, Angelo da Bari. Angelo perché da Bari parla di cose più grandi? No, scusa, eravamo con Rosario sempre, da Palermo. Eravamo con Rosario da Palermo, fermo. Rosario perché? Da Palermo. Allora, Rosario, non ho capito. Tu hai fatto praticamente 3500 chilometri, non so quanti, allora, dal sud della Spagna. Ancora ne devo fare, perché dato che eravamo in 4, io di Palermo, un mio collega di Bari, l'altro collega di Battipaglia che ho lasciato mezz'oretta fa, e la tua mia collega di Trieste che l'ho lasciato ieri notte. Allora, tu mi hai chiamato per dire che cosa? Per dire che sostanzialmente in Italia finora non ti ha fermato nessuno? No, a parte che non mi ha fermato nessuno, voglio capire, se hanno chiuso le frontiere non c'è nessuno per entrare in Italia, io sono entrato senza essere fermato, e fino adesso che sono... Ma ogni stato, l'Italia non le ha chiuse però, cioè, attenzione, l'Italia non le ha chiuse, la Francia le ha chiuse, comunque ha rimesso Schengen, passano solo, cioè hanno rimesso i controlli, non è che sono chiuse. Ma manco dappertutto, neppure dappertutto, non è vero. Comunque la cosa incredibile è che Rosario sta facendo tutto questo tragitto per tornare... Ancora deve arrivare a Palermo, e fino adesso non lo ha fermato nessuno. Ma non è che in autostrada lo fermano? Sono a Catafa io, di Bari. ancora c'ho quanto 2 ore e mezza di strada, perché sono 147 chilometri. È abbastanza strano che non l'abbia fermato nessuno. In autostrada uno dei posti di blocco ci saranno per controllare se una macchina che cosa sta facendo una macchina. Agli ingressi dell'autostrada, sì, può ma quello è uscito 3-4 volte. Aspetta, io ho una macchina parcata spagnola. Tra l'altro. Vabbè, Rosario, sì, speriamo che non ti fermino. Ma tu hai fatto un controllo, eccetera. Hai febbre, sei malato, no? Se mi fermano. C'ho io un foglio che mi ha lasciato la compagnia navale, dove io diciamo che a bordo mi controllavano, perché io sono partito da Miami, perciò ho fatto la traversata dell'Adriatico per arrivare in Spagna, perché sì, dovevamo fare dei lavori, vabbè, capito? E noi dovevamo rimanere là, ma ci hanno sbarcato perché... Vabbè, Rosario, ti abbraccio, avanti tutta. Dove andiamo? Andiamo a Bologna, Antonio, vai Antonio. Ciao, senti una cosa, scusa, io la faccio come battuta, ma se domattina tutti i proprietari dei cani te li portano in casa tua e ti riempiono la merda di casa, cosa dici? Ho detto un'altra cosa, amico mio. Ho detto che la gente, con la scusa di far cagare il cane 3, 4, 5, 6 volte per le strade o in giro, se ne sbatte i coglioni, la prende come una passeggiata per prendere una boccata d'aria. Io capisco la voglia di libertà, certo, ma la realtà è questa. C'è ma una anche marea tu di sei gente, andato a correre, come ad esempio. Non si... Ho sbagliato. Hai ammesso che tu sei andato a correre l'altro giorno, adesso fai la morale a tutti quanti. No, ma l'ho eppure detto. Tu stesso ma l'ho detto. Sapevi sì, ma non è che non era giusto andare a correre. Non è che ho detto no, sono ma tu stesso, a parte che ho fatto una cosa che tu stesso sapevi di fare una cosa, ma sapevi di aver fatto una cosa non necessaria. No, ma non necessaria. Assolutamente. E che avresti potuto evitare. Quindi vedi che il primo come dire a necessitare di sanzioni sei tu, mentre invece in un contesto chi normale ma è una follia. Ma chi tu che sei una persona che dovresti essere mediamente informata o più che mediamente informata hai trasgredito volutamente un invito a non farlo. Non è trasgredito nulla, non ho trasgredito niente, ma non è vero nemmeno quello. Fontana non l'ha detto tutti i giorni, ma non è vero, ma non se è non vero, hanno detto ma l'hai sentito prima, ma l'hai sentito prima. Io ascolto tutti i giorni, dato che non sai parlare se non accavallando le voci, adesso spengo il microfono. Allora, l'attività fisica, detto anche prima Spadafora, è consentita, per cui c'è stato un messaggio sbagliato. È chiaro o non è chiaro che uno dice una cosa e un altro ne dice un'altra? Forza Antonio, il problema del cane è un altro. Il problema del cane è che c'è un sacco di gente che porta il cane in giro e non l'ha mai fatto e lo fa semplicemente per prendere una boccata d'aria. È chiaro? Guarda, ti posso garantire uno che... fa cagare il cane in casa, nella toilette del cane, oppure... Ma non si può! Ma cosa non rompete dici? I coglioni ma con sti cani! Ma con un cane di 28-30 kg lo vuoi far cagare in casa? Ma te sei fuori comunque. Certo, come un oppure balcone. Una volta, lo porti fuori una volta e non rompi il cazzo. Ma non possono star fuori una volta, bisogna uscire almeno due volte con un cane. 2, 3, 4, 5, 6, 45, dai Antonio. No, posso aggiungere anche un'altra cosa, un pelo più seria, perché questo qui so di aver ragione io, quindi va bene, non so neanche più a parlare. Ci sono milioni di italiani che sono depressi. Allora, se questa gente qui la chiude in casa, rischi che i familiari, anziché morire di coronavirus, muoiano a coltellate. Perché un depresso impazzisce. Questo è un problema, non c'è dubbio. Il depresso deve uscire, va bene? E non gli devono rompere i coglioni. Il depresso deve uscire, ma che cazzo stai? Ma che sei impazzito? Sei no, il depresso no. Deve, a parte no, come ma la certifica. Spadafora prima parlava di alcune come categorie come, particolari. Come la giustifica come la depressione? Sentito? Scusa, non ho capito. Come la giustifica? Guarda, i depressi sono tutti dei medicinali, quindi possono tranquillamente girare con i loro medicinali e se vengono fermati, ragazzi, possono farlo vedere. Ma se volete infettare o se volete infettare, ma fate pure. Ma a me che cazzo? No, ma me ne frega, ma invece purtroppo me ne frega in questo caso. Scusami, ma se uno c'ha i depressi, quelli che devono portare il cane, quelli che hanno i bambini da portare fuori, che molti gli dicono: il bambino non lo posso tenere in casa, ma vai a fare il culo, tieni il bambino in casa e rompere il cazzo. Luciani, se un depresso va in giro per un parco e tiene distanza da 20 metri la persona più vicina, ma non gli succede ma nulla. Se tutti ragionano così, allora non ci sarebbe discussione, no? Ma di che parli? Ma non è un popolo di depressi, saranno alcuni centinaia di migliaia di Amalia depressi che hanno Genova, tutte le ragioni di Amalia farlo. Da Genova, dai, poi dice che non ci vuole l'esercito ogni angolo di strada. Amalia, dimmi. Giuseppe, allora, ascolta. Dunque, io sono furibonda semplicemente per un fatto che ci sono questi cosiddetti furbetti che sono semplicemente degli evasori, no? Evasori del dovere. A chi ti stai parlando, no, di quelli di Napoli? Esatto, che siano 100 o 10, il fatto di cioè, la cosa incredibile è che Parenzo mette sullo stesso livello i disertori di Napoli con i disertori della Lombardia. Io sto ascoltando il TG3, mi chiamate voi quando volete, io sto ascoltando il TG3, quando volete mi chiamate. Chiudi il microfono, chiudi il microfono, perché non sai perché ti accavalli. Uso il tempo migliore, uso il tempo in modo migliore. Quando volete, eccoci qui, Vittorio. Vittorione, come andiamo? Bene, mi è molto piaciuto Gottardo in questi giorni, perché oh, balsamo per il mio cuore le tue parole, Vittorio. Grazie, grazie Vittorio, un gigante, un gigante. Ma scusa, perché ti è piaciuto Gottardo? Non ho capito, perché per le sue posizioni. Dopo le dici su Sutri, eccetera. A Sutri, evidentemente, io come sindaco posso andare, però prevale la mia funzione o il rispetto delle regole? E quello che oggi il Corriere indica come una dittatura delle punizioni e delle misure restrittive. Ti faccio un esempio. Oggi in Parlamento si doveva essere un question time. Io avevo posto il problema della libertà di espressione. Hanno abolito il question time. Hanno fatto un consiglio telematico, il capigruppo, e hanno rimandato al 25, non per un voto, quindi per una riunione sostanziosa del Parlamento, ma sempre il question time. Vabbè, ma che c'entra questo? Scusa. Senta, perché sono presenti quattro persone. Ora, noi abbiamo sospeso il Parlamento italiano. Che è sbagliato, secondo me. Per me è sbagliato. Non è sbagliato, ma non l'abbiamo sospeso perché l'abbia stabilito il Ministro degli Interni o Conte. Perché i parlamentari non vanno a lavorare. Sono, e qui ha ragione Gottardo a questo punto, sono assenteisti, fanulloni e hanno paura. Per la loro paura, come spende un sindaco rinunciarsi a fare il sindaco, non vanno in Parlamento. Secondo me il Parlamento va aperto, cioè non capisco perché l'ha detto pure Renzi l'altro giorno. Il Parlamento va aperto, va aperto. Gli operai vanno in fabbrica, anche i parlamentari devono andare in fabbrica. Esattamente questo. Bene, gli operai vanno in fabbrica, i parlamentari non perché qualcuno glielo impone, ma per paura non ci vanno. Quindi fanno il massimo di quello che è negativo fare quando si indica quelli che non vanno. Io spesso dico che uno che non va. No, ma le commissioni credo che lavorino invece. Ma non le commissioni lavorano. Forse la plenaria cretino, non c'è. Cretino, alcune non commissioni lavorano. A distanza. Sono totalmente a distanza. Parla di quello che sai. Chi è a distanza? A distanza lavorano. Se lo insegna Cassese. Con le videoconferenze. Ma scusa, ma quello certo. Ma le videoconferenze le usano tutti. In tutte le aziende usano le videoconferenze. Non si capisce perché anche lì non si possono usare le videoconferenze. Per la sua natura è un luogo di dibattito e di confronto che finisce con un voto. Se per te la dittatura è più importante, chiediti la dittatura. Chiediti ma quale Mao, dittatura? Ma la figurati. Cina, ma che Mao? Ma no, ma ha ragione. Su questo prova ad andare a vendere nei supermercati a distanza. Prova ad andarci. Ha ragione, su questo posso dire, sul Parlamento ha ragione Vittorio. Se gli operai vanno a lavorare, anche i parlamentari dovrebbero andare in commissione e in aula. E se qualcuno si becca il contagio, chi se ne frega? Come se lo possono beccare? Mi pare che il Presidente della Camera l'ha detto. Sono loro che hanno deciso, ci sono autodeterminati di non andarci. Sarebbe come se un dipendente potessi dire non vado a lavorare. Questo per paura, dici? Per paura? Per paura, sì. Quindi vuol dire anche i rappresentanti hanno paura. Sto dicendo semplicemente. Però scusa, perché hai fatto marcia indietro? Per paura delle denunce, no, eccetera? No, però scusa, Vittorio, alcuni sono anche bloccati in Lombardia, peraltro. Alcuni non possono neanche muoversi. Ma possono andare per lavoro, dai, su, dai. Beh, indipendentemente da quello. Questo è il Parlamento, il primo punto, il secondo poi lo dirò. L'altra ragione è semplicemente questa: se io non ho preso nessuna posizione, essendo un competente di Raffaello, di Pontormo o di Leopardi, non sono un competente di virus, posso odiare il virus. Io ho citato letteralmente quello che ancora oggi dice Tarro sul giornale di oggi, ho citato quello, ho citato il famoso virologo Bassetti, che poi mi chiede, mi diffida di dire le cose che io ho fatto vedere, ha detto lui. Le ha dette fino al 9 di marzo, quindi io non ho detto una sola parola, per cui mi sono scusato di aver avuto fiducia in alcuni virologi. Mi pare che fosse la cosa più coerente che potevo fare, cioè comunque quando io ho detto virus del buco del culo, ho detto che era una cosa per me schifosa, cioè niente più schifoso, quindi non possono farmelo pensare come una leggerezza. Però hai detto alzatevi, andate a Codogno, cioè hai detto... Ma questo lo dico per una ragione perfettamente cristiana. Nel cristianesimo è previsto che i prelati, i vescovi, i preti vadano a trovare gli appestati. Esce la notizia l'8 di marzo che Codogno è stata bonificata. Beh, Vittorio, qui sei un po' paraculo, qui siamo un po' sul paraculismo. No, l'ho detto apposta, nel senso di dire andate a Codogno perché finalmente possono diventare normali persone che sono state per 50 giorni escluse dalla società. Ma io effettivamente, no, ma io capisco il tuo ragazzi, io capisco il tuo artificio. Non avrei detto il culmine del contagio, l'ho detto quando avevano detto è finito il contagio. No, ma io capisco il tuo artificio retorico, però la cosa che la cosa che più mi fa rodere il culo in questi giorni è che non viene ammessa nessuna voce dissonante. Cioè, le persone che dicono, tu ne hai dette magari una di troppo, ma questo chi se ne frega, è il modo tuo di parlare, il modo tuo di esprimerti, eccetera, eccetera. Grazie. Però le persone, ed è solamente modo di esprimersi, non c'entrano un cazzo i tribunali. Chiaro, questi scienziati che vogliono querelare. Ma che cosa fate coi tribunali? Qual è l'istigazione? Che ha detto a qualcuno, andate, uscite tutti e contaminatevi? Ha detto magari due o tre parole di troppo, succede quando uno parla in un certo modo. Su, dai. Mi sono scusato, avevo voluto pensare che io volevo fare. Scusato, basta. Per sottovalutazione del male, se quello che dicono, e non comunque l'ha spiegato. Però rimani convinto, rimani convinto. Sono convinto di una cosa, ve la dico in modo epocale, ricordatela: fra due mesi, io risulterò l'unico che aveva avuto il coraggio di dire, come l'ho fatto in Parlamento, sia il mio voto, quello che tutti tacevano e tutti avevano paura di dire, cioè che le misure italiane sono sbagliate. Sono giuste quelle della Corea del Sud e forse saranno giuste, vedremo, quelle di Boris Johnson, cioè che non può, cioè, i musei sono generalmente vuoti, non li chiudi. Li metti a un accesso contingentato, non puoi chiudere tutta la vita dei cittadini, anche le passeggiate. Ma se tu passeggi da solo e fai 1,5 chilometri, quale problema c'è? No, però sì, Vittorio, lo capisco. Infatti, oggi Spadafora ha detto che forse vogliono vietare ancora di più le passeggiate. Signor Spadafora, lo dicano, io gli darò ragione perché ho deciso di non fare polemiche, ma quando sarà finito tutto vedremo se hanno avuto ragione. Ma cioè, Cruciani è per l'esercito. Io sono per l'esercito. Io sono per l'esercito, certo. Ma io sono in disaccordo con Vittorio, con quello che dice, ma sono per la libertà che lui lo dica senza essere denunciato, chiaro? Ma poi si è scusato. Io sono in disaccordo, per me ci vuole l'esercito. Per me ci vuole l'esercito agli angoli delle strade. E per me la passeggiata, non dico che va vietata, anzi sì, la passeggiata va vietata. Si deve uscire. Sei il primo a averla fatta, sì. Tu sei andato a correre tu. Ho detto che ho sbagliato. Dici che ho sbagliato, il primo a dare il cattivo esempio sei stato tu, sapendo che non dovevi farlo. Ma non dire trozzate. E adesso rompi pure i coglioni. Ma non rompere ipocrita cazzo. Populista del cazzo, ipocrita populista. Tu, in base all'interlocutore che hai davanti, decidi che posizione prendere. Zelig radiofonico. Facciamo una cosa originale. Zelig. A questo punto, ma diciamo semplicemente Zelig. Che tutti noi abbiamo deciso di accettare queste decisioni. In base all'interlocutore, lui dice: la prossima volta dovranno spiegarsi perché la sanità non era pronta Zelig per accogliere. Proprio. No, il problema di fondo è che questa cosa è capitata. La prossima volta non deve più capitare. Scusami, Vittorio, ma perché secondo te vanno aperte le chiese? Non ho capito sta cosa delle chiese. Non ho capito. Perché allora, la prima cosa è il Parlamento, la seconda è la Chiesa. Ho fatto però un appello al Papa che esce. La Chiesa non è diversamente dal supermercato. Cioè, lo scambio che c'è fra quello che ti vende le patatine e quello che ti dà la comunione è uno scambio che ha una sola natura, che è una dimensione ontologica diversa, perché la Chiesa non è un supermercato, la Chiesa è un luogo dello spirito, quindi dovevo dire facciamo le messe al massimo per 10 persone, ma non impediamo di entrare nelle chiese. Ma dai, comunque la Chiesa, ma sti cazzi, vabbè, ma chi se ne frega, però il Parlamento è una cosa, ma la Chiesa se resta chiusa chi se ne frega, la gente prega a casa, dai, su, i sacramenti saranno quando saranno, dai. Questo è quello che dice Burioni, però il dato di chi crede è un dato, siccome la gente ha paura non uscirà, ma chi vuole uscire deve essere nelle condizioni di poterlo fare. Ma no, perché se fosse così che uno è libero a seconda della situazione, dipende. A seconda del fatto di farsi una passeggiata, tu per esempio la fai, la stai facendo la passeggiata? No, no, o sei, non faccio nessuna passeggiata. Sei tumulato in casa, sei. No, legge in terrazzo, Scarbi. Dico una cosa che è questa, siccome i positivi non sono 26.000, 30.000, 40.000, sono di più. 10 milioni, sì. Non è che uno possa saperlo. Ecco perché il metodo giusto. Brexit potrà avere un giusto. Significato, cioè la diffusione del tu morbo, sei per la diffusione. No, mi pare che non sia, no. Non voglio dire che è giusto, ma che non sia illogico, cioè tu potresti esserlo senza saperlo. Quindi, sì, questo è sicuro. Anche gli inglesi stanno tornando indietro, pure gli inglesi però, Vittorio, pure gli inglesi ci stanno ripensando. Stanno tornando indietro fino a un certo punto, vediamo fino a che punto stanno indietro. Vabbè, come fai? La chiusura di tutto è una follia. La chiusura di tutto è un principio che stabilisce una impossibilità di trasmissione, salvo però stabilire che puoi andare a lavorare. Chi va a lavorare cos'è? Un uomo inferiore? È uno che ha dei limiti? Beh, ho capito, però delle regole, un minimo di cose le devi dare. Effettivamente si potrebbero spegnere anche l'informazione, si potrebbe spegnere la radio, cioè non è che cambia molto, Si potrebbero si potrebbe spegnere tutto e non cambia niente. Cioè non è che cambia la vita delle persone se c'è solamente se ci sono tre reti televisive in onda e tutti gli altri tappati in casa, non cambia un cazzo, non è che se c'è forse sarebbe una cosa positiva, perché l'unica voce che esprimono quelli della informazione è una sola. C'è una sola voce, quindi tanto vale. Senti, ma tu come fai col sesso? Spiegami. In questo periodo. Ormai talmente, come ci ho già detto, sono talmente maturo ormai che tutto quello che dovevo fare l'ho fatto. E per il resto è meglio il ricordo della realtà. Cioè, la clausura non ti intacca? In alcun modo. Cioè, niente. Tu non pratichi nemmeno la masturbazione, per cui. No, anche perché quella si richiede troppo entusiasmo. Come troppo entusiasmo? Posso fare un appello, Vittorio? Vittorio, grosso, non più che grande. A Sutri non c'è neanche un caso di coronavirus. Vai a fare il sindaco, che è il posto più sicuro di Italia. E riapri il teatro etrusco. Ma che cazzo riapri? Sì, ma che riapri? Fai un grande atto di disobbedienza. È un teatro all'aperto. Cazzo, riaprilo, Vittorio, fai un atto di disobbedienza. Ma non ci va nessuno, tanto. Non ci potrebbe andare nessuno. Ciao, Vittorio. Ciao, ragazzi, bravi. Ciao. Ciao caro. La zanzara. Abbiamo detto che si sta facendo un tentativo estremo per bloccare la diffusione a macchia d'olio del contagio. Le norme prevedono che si possono tenere aperti questi locali se ci sono clienti seduti al tavolo e a una distanza di un metro. Nella serata di ieri, nella nottata di ieri, i baretti della zona della Movida a Napoli e in tanti centri storici dei diversi comuni della regione erano gremiti di ragazze e ragazzi uno sull'altro. Bene, ai gestori di questi bar vorrei dire: ma è mai possibile che voi, per guadagnare 100 euro in più, dovete correre il rischio di perdere 10.000 euro fra due settimane? Bene. Ma che c'è da mi sin del cervello, facciamo capire, che vado mi sin del cervello. Forse non capire, vado a stare a casa. Dovete stare a casa, e che faccio, ma non capire. Ad a stare a casa, e che cazzo, ma non capire. Credi che questa mia non sia poesia? Guarda i prodigi della mia malinconia. Sarò la sintesi del delirio dei matti. Cosa? Ti mostrerò i fiori migliori negli anfratti. Quando? Bolgia di critici osannati. Allora, qui siamo in provincia di Livorno, esattamente Piombino, Castagneto, Borghiri. È pieno di gente in giro. Si sono cagati in mano per 4 giorni, 5 giorni e ora sono tutti fuori a fare ognuno i cazzi suoi. Vanno a fare chiaramente i loro business. E quindi, ragazzi, c'è poco da incazzarsi: o si chiude tutto oppure si fa, come ha detto Boris Johnson, tutti attaccano Boris Johnson. Ma alla fine è quello che sta succedendo in Italia, capito? Si lascia che il virus scorra e la gente continua ad andare al lavoro, perché si critica, ma poi fondamentalmente si fa esattamente quello che diceva Boris. A te che Icaro ha ispirato i canti. Oh, era da quando c'avevo 15 anni che non mi facevo 4 pippe al giorno. Struggerò gli endecasillabi del madrigale. Pippe, pippe, pippe, pippe, molte pippe. Ragazzi, che ci facciamo le pippe o che molte persone si facciano le pippe in questo periodo è sicuro al 100%, eh. Cioè, no, è proprio certo, al 200%, 200%. Ancora un po' di porro, ragazzi, ancora un po' di porro. Ho paura di perdere le mie libertà. Nicola Porto. Sì, se voi non avete ansia per le vostre libertà, peggio per voi. Io per la mia libertà ce l'ho molta ansia, e l'idea di vedere Casalino col suo fidanzato che girano mentre, e il Papa che girano mentre noi siamo tutti costretti a casa, e se rischiamo 12 anni di galera, un po' di brividi mi fanno venire. Ma io sono convinto che il 90% di voi non è d'accordo. D'altronde siamo un popolo che non è d'accordo, abbiamo avuto il fascismo, ci piace l'uomo forte, e l'uomo forte sarà Conte e Casalino, e teniamocelo. L'eternità non è il sole in comunione con il mare. L'intervista al Papa, straordinaria, perché io la trovo fantastica, anche questa è fantastica. Il Papa che mi dice non sprecare questi giorni difficili. Ti ringraziamo. Io penso, tutto sommato, che un po' li stiamo sprecando i giorni, ma non per colpa nostra, ma perché c'è un virus e li stiamo sprecando. Avrei preferito non sprecarli. Però se il Papa ci dice, è come quelli che ti dicono quando stai male, cerca di guarire presto. Grazie al cavolo. Se dipendesse da me, cerco di non sprecarli questi giorni difficili. Grazie al Santo Padre. Tanto mi piace l'attacco al Santo Padre del signor Porro. Posso dire un'altra cosa? Che il Papa ha detto, ho chiesto a Dio di fermare l'epidemia. Ah beh, allora guarda, stiamo tutti tranquilli. Sì, il Papa, per carità. Però la frase, ho chiesto a Dio di fermare l'epidemia, pensa Giuseppe, questo vuol dire. Però pensa, David, pensa all'impatto che avrebbe avuto il Papa se avesse detto, ho chiesto a Dio di fulminarli tutti. Che cosa fantastica. Un grande colpo di teatro. Dovete morire, sì, tutti, ma ha ragione, comunque ha ragione Porro, perché quando dice non sprecate questi giorni difficili, il Papa, ma che cazzo vuol dire? Riscoprite in casa i piccoli gesti, ma la gente è incazzata nera. Ma la gente è incazzata nera di stare dentro casa. Non è che senti il Papa dice non sprecate questi giorni difficili. Non dire niente, ma non c'è bisogno di parlare continuamente. Riscoprite in casa i piccoli gesti. C'è gente che conosco che è avvelenata, sta dentro casa e vorrebbe ammazzare la compagna e i figli continuamente. E produce dei video assurdi. C'è una produzione di video casalinghi in questo periodo che fa spavento, anche eccessiva, è anche folle. Ma no, ma perché la gente non sopporta l'idea di essere ristretta, capito? Cioè non la sopporta. Giustamente, poi arriva il Papa e dice riscoprite in casa i piccoli gesti. Ma quali piccoli gesti? Se vorresti prendere a picconate la porta, dai, su. Parole di conforto sono. Dai, parole di conforto. Picconate la porta. Dai, su. Io per fortuna, io sono fortunato, perché io esco e vado alla radio. Mi reputo fortunato da questo punto di vista. E vivi con una donna fantastica che ti supporta. Questo sa va sans dire, come dire, sa va, ma è un altro discorso. Spatalino, ragazzi, Spatalino contro tutti, l'Unione Europea, gli immigrati, vai. Alla luce di questo flagello, io denuncio pubblicamente la classe politica italiana, a partire dai governi di Monti e C, hanno rovinato il mio paese. Pressati da una Unione Europea incompetente che serve solo a pagare colletti bianchi. Perché ditemi voi, a cosa serve sta Unione Europea? Questo santuario di inefficienza, miliardi di euro che se ne vanno in un anno. Ecco perché io parlo di omicidio colposo, li denuncerei. Ma chi, dove, cosa denuncia? Ha ragione di fondo, lo dice anche Cacciari, insomma. Lo dice anche, posso dirti che Spatalino come Cacciari. Beh. Cioè ragazzi, dice le stesse cose. Cioè attenzione, dopo te lo faccio ascoltare. Però Cacciari dice che l'Europa è finita. Dopo questa roba qui è finita. Lo ha detto Cacciari, credo ieri sera, non so dove, o stamattina ad Agorà, non lo so, Agorà è sospesa in un'intervista, non so dove. Però ancora non Spatalino è più sospesa Agorà. No, certo. Ecco perché io parlo di omicidio colposo, maledetti politici inadeguati, impreparati, incompetenti, dilettanti allo sbaraglio. Che cosa c'è? Però non batte. Non batte più. Ecco, no. Perché molti hanno fatto la cresta, capisci a me? E hanno foraggiato le ONG. L'Italia, cari telespettatori, è diventata il campo profughi d'Europa. Per forza, tutti qua sono venuti. È rimasto indietro di un anno. Ma non è, allora c'è Paolo Ruffini che mi ha mandato il video dei piccoli gesti che fanno gli italiani che sono incalzati neri, che sono in casa, come quello per esempio di un signore che si faceva una sega in balcone. Però sai, caro Paolo, io non ci credo a quel video là, cioè è talmente clamoroso con uno che si fa una sega in balcone all'aperto, no, diciamo, potrebbe, alla potrebbe vista anche di tutti, che io un po' non ci credo. Sì, potrebbe essere anche datato, perché non fa così caldo da essere completamente nudo in balcone. Esatto. No, magari quello no, quello magari ha trovato una di queste giornate, dipende anche dal posto, magari c'erano 20 gradi da qualche parte, uno si è messo nudo. Però secondo me non è di questo, non è di questi giorni. Infatti. Angelo da Bari, vai Angelo. Angelo. Aspetta che tolgo di la voce, che sto guidando. Sta guidando questo. Ma senti? Ti sento, dimmi. Allora, volevo dire una cosa seria o una meno seria. Sì. Dimmi Angelo, questo sta guidando. Ma dove cazzo va poi Angelo? Vorrei capire dove cazzo va. C'è un sacco di gente in giro. Dove cazzo va? Dove va? Ezio da Palermo, vai Ezio. Pronto, buonasera. Dimmi buonasera Ezio, dimmi. Allora, io volevo denunciare una cosa gravissima che succede, che è successa qui. Tutti ci stanno facendo rimanere in casa e hanno chiuso dei negozi, hanno fatto chiudere dei negozi, non tutti. Quelli che vendono cose essenziali ovviamente possono rimanere aperti. Io ho un'attività fra quelle che sta praticamente avendo dei danni pazzeschi, quindi sono un autonomo, non sono un grande imprenditore, perché devo stare aperto, e i miei dipendenti ovviamente hanno avuto paura di tutto ciò e quindi un po'... Sì, ma che attività c'hai? Non ho capito, che attività hai? Io vendo servizi televisivi, quindi. Servizi televisivi? Che cazzo vuol dire? Sì. Sky, vendo Sky. Vabbè, cioè, amico mio, però insomma in questo periodo sei chiuso, immagino, no? No, io sono chiuso, ma col mio culo però sono chiuso. Cioè, non è che lo Stato mi ha fatto chiudere perché mi ha detto senti tu. Perché sei uno di quelli che potrebbe essere aperto? Sì, un servizio essenziale. Ti rendi conto? No? Ma ovviamente sei chiuso da solo perché non viene nessuno. No, sono chiuso da solo prima perché ho avuto anche un po' di boicottaggio, giustamente perché a Palermo non ci trovano mai. Vabbè, ma insomma, non ho capito perché hai chiamato però. Io ho chiamato perché se tutti dobbiamo essere chiusi, dobbiamo essere chiusi tutti. Cioè, non è logico che un negozio che vende servizi televisivi debba stare aperto perché è servizio essenziale. No, ma io sono d'accordo con te. Dipende. Ma sono d'accordo con te. Poi arriva Conte che io sto morendo di fame e mi dà 600 euro. Perché Conte non si va a fare la spesa lui con 600 euro? Ciao Ezio, ciao. Allora ragazzi, c'è un signore che si chiama, soprannominato Jerry, ma in realtà si chiama Gerardo Logrippo, che è stato cacciato da una radio, locale in Piemonte, perché ha detto che il coronavirus non esiste. Il coronavirus non esiste. Poi uno di quelli che nega tutto, credo che sia anche un terrapiattista, io lo chiamerei. Ma come li scovi? Me l'hanno segnalato, che ti devo dire? Pronto? Jerry? Sì. Gerardo Logrippo? Sì, sono io. Salve, qui Radio 24. Oh, salve. Come andiamo? Buonasera. Bene. Stiamo subendo ancora attacchi da tutte le parti. Beh, attacchi, amico mio. Hai detto che il coronavirus non esiste. Più di questo. Certo. Aspetta, però c'è da dire una cosa. Se facciamo il discorso sull'esistenza o meno del virus. Ma tu l'hai detto che il coronavirus non esiste, non è che l'ha detto qualcun altro. Tu hai detto ho parlato di egregore. Di egregore? Che roba è l'egregore? Ecco, l'egregore è qua. L'egregora è una forma pensiero che se tu nelle persone generi un'idea talmente vera e talmente in profondità nel suo subconscio, questa idea fa sì che queste persone possano generare ciò che l'idea instilla nella mente. Ci hanno detto, cerco di tradurlo, ci hanno talmente rotto le balle con questo virus, martellamento eccetera, che nella testa delle persone si genera qualche cosa e dunque il virus si genera automaticamente, così? Questo aiuta sicuramente il discorso dell'idea che viene generata nella mente. Ma secondo te ci stanno ingannando? Questo è il punto. Ma certo che mi inganno. Certo che perché è un inganno questo. Dire che c'è il coronavirus? È questo che voglio capire, perché intanto stanno aumentando i controlli, adesso vogliono anche metterci l'esercito per controllarci. Se la gente continua a uscire, per forza, se la gente continua a uscire. Ma metti pure i cellulari sotto controllo? Ma il contagio? Ma c'è stata un'influenza che ha fatto 20.000 morti 2 anni fa. E allora? Ma questa è diversa come influenza. È una malattia uguale. Ma non è uguale, questa qua si diffonde in maniera più rapida, ammazza più persone e in un tempo ristretto. Ne ha ammazzati un decimo di quelli che sono morti. Non c'è il vaccino, non ma puoi che prendere. Non c'è il vaccino. Il vaccino ce l'avranno, siccome c'è un francese che lo stava dicendo adesso in un video che c'ha tanto di fogli. Dunque, secondo te ci stanno ingannando? Questo è il punto. Ma chi ci sta ingannando? Questo è il punto. Chi tira le fila di tutto? Cioè chi? Ci sono i governanti, no? Ma perché ci stanno ingannando? Ma in questo momento Conte, perché qualcuno l'ha scelto, ci sarebbe da discutere anche su questo. Però insomma voglio dire una cosa. Tu l'hai scelto? Vabbè, d'accordo, questo è un altro discorso. Chi è che ci sta? Ma no, che non l'ho scelto nemmeno. Chi è che ci sta? Sì, ho capito, ma perché ci dovrebbero ingannare sul coronavirus? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è il controllo, no? Infatti, cosa stiamo facendo? Noi stiamo dando l'ok a farci controllare maggiormente per la paura di ammalarci. Perché loro viaggiano sulle nostre paure. Allora ci vogliono spaventare per chiedere maggiori controlli, in modo che ci possano incatenare sempre di più e toglierci dunque, sempre tu più non cose. Credi che si... Poi arriveranno anche a controllare i vostri conti correnti. Mai visto questo l'hanno già fatto un tempo fa. Ma l'hai visto gli ospedali di Bergamo, la gente che muore a Bergamo negli ospedali? Chi ti dà la certezza al 100% che queste persone muoiono per il coronavirus? Quante sono morte solo per il coronavirus? Ma questo è un altro discorso. È lo stesso discorso. Se tu mi fai domanda, io ti rispondo. Se non ti piace la risposta, allora scusami, Gerardo, però tu. Io voglio capire una fatti cosa. Due ma no, ma per me tu potresti se parlare. Tu, se tu vuoi, allora, se tu vuoi che ti rispondo, come vuoi tu alle domande? Ma assolutamente, figuriamoci. Se invece ti ma do scusami, quindi esiste o no il ceppo del coronavirus? No, ma ti chiedo, esiste o no quindi il ceppo del coronavirus? Esiste allora, il virus? Me, esiste in sé o no? Il virus secondo me non esiste, lo ripeto, non esiste il virus. Secondo me le malattie... Quindi anche in Cina non esiste. Informatevi un po' su un tizio, Gerd Hammer. Hammer, ma questo quello del cancro, questo Hammer. Infatti quelli che curava tutto, curava. Ma che curava? Però, ma non curava un cazzo questo qua. Dice? Ma questo Hammer, tu sei contro, sei pure contro la chemioterapia, tu? Certo. Cioè tu sei contro, tu pensi, sei anche terrapiattista, sei anche uno che crede che la terra sia piatta, magari. C'ho questo difettissimo, questo difetto enorme, capito? Cioè, credi che... allora potevi dirlo cioè, subito. Tu credi che la terra sia piatta? Infatti, tu credi che la terra sia piatta? Ma perché tu credi che la tonda? Ma come cazzo è? Scusami. Allora andiamo per ordine. No, va bene così, ma perché ha votato alle ultime elezioni? Così chiudiamo anche il... Nessuno. Vabbè. Cioè, scusami, esiste l'HIV? L'AIDS esiste, l'HIV oppure è tutta una farsa pure quella? Sono malattie epocali, come possono essere la peste o qualsiasi altra cosa, ma sono, secondo me, delle manifestazioni che la razza umana deve per forza far capitare per poter migliorare a livello di razza umana. Ma come migliorare a livello di razza umana? Scusa. Sì, certo, c'è tutto cioè, un discorso. L'HIV per migliorare la razza umana? Certo, certo. Perché per migliorare? Perché mica è migliorata la razza umana con l'HIV? Perché non è migliorata? Beh, ha eliminato un po' di gente, ma tutta gente povera, anche gente normale, gente per bene. Scusa, non ho capito perché è migliorata. Perché... No, siamo migliorati a livello fisico. Perché siamo migliorati? Non ho capito. No, fisicamente, perché poi il corpo si auto. Ho capito, ma che c'entra però? Cioè, non è che c'entra? Ma purtroppo abbiamo avuto l'AIDS. Era meglio non averlo l'AIDS o l'HIV. Ma perché? Perché te non ti piace molto, tu hai paura di morire, vero? Ma è normale, ma tutti hanno paura di morire. No, dimmi tu hai paura di morire. Ma certo vero? Che ho paura, tutti hanno paura di morire un minimo. Perché tu non hai paura di morire. No. Non hai paura di morire, va bene. Perché tanto ci devi morire prima o poi, ragazzo. Ci devi morire pure tu. Ma tu lo muori. So che devo morire, ma tu cosa c'è? Ragazzo, ma muori. Lo so, certo. Come muore sempre dopo di quelli che sono i coltelli. Sempre dopo di te, amico caro. Sempre dopo di te. Sempre dopo di te. Sempre dopo di te. Sulla Luna ci siamo andati o no? Tanto per completare il quadro. Assolutamente no. Non ci siamo andati sulla Luna. Benissimo. No, dunque, tu credi alla terra piatta? Credi alla terra piatta? Pensi che l'HIV sia stata una specie di cosa positiva per l'umanità? Sì, benissimo. Sulla Luna non ci siamo andati. Esatto. Il coronavirus non esiste, amico mio. La libertà di espressione va bene, ma non so se hanno fatto male a cacciarti. Non lo so se hanno fatto. Io sono per il massimo della libertà di espressione. Ha fatto benissimo a cacciarmi, lo sai? Perché se tu non dici le cose che sono, sono all'interno dei concetti mentali standard. Ma i vaccini, allora, sei vaccinato o no? Ma no, non me ne frega niente del vaccino. Vabbè. Mi scusi, ma lei ha avuto un'infanzia felice o ha avuto dei problemi? La sua infanzia com'è stata? Sicuramente migliore della vostra. Un'infanzia sicuramente migliore della vostra. No, ma soprattutto la terza media, come caspita hanno fatto a dartela con questa roba qua della terapia? In geografia. Non so neanche a voi in geografia che voti avevi con la terra piatta? Ma in geografia andavo molto bene, per tua informazione. La terra piatta. Con la terra piatta. La terra piatta. No, ancora perché questa cosa qua ci sono arrivato non quando facevo le elementari o le superiori, ma ci sono arrivato dopo. Poi non bisogna prendere in giro le idee diverse dalle persone. Ma no, per carità. Ma perché la terra sarebbe piatta? Spiegami. Perché la terra sarebbe piatta? Spiegami. E quali idee? Ma vaffanculo, va. Ma perché la terra sarebbe piatta? One Express, il pallet espresso. Vi presento la zanzara. Perché non dovrebbero prendere lo stipendio? Perché a me, che sono una partita IVA, mi hanno detto che mi danno 600 euro per una volta, hai capito? Infame. Io quest'anno perderò almeno il 60-70% del mio fatturato perché faccio rappresentanti in Asia, hai capito? Cretino, perché loro non dovrebbero essere pagati, pezzo di idiota, perché mi hanno dato 600 euro una tantum a marzo e basta, hai capito? Infame te e tutti i politici che abbiamo, sei un infame, Parenzo, quando parli così, fai schifo. Allora voglio chiedere a Parenzo, hai avuto da tuo padre un'agendina nera con i numeri di telefono che dovevi chiamare? L'hai avuta o no, Parenzo? Te la ricordi la tua prima raccomandazione? Sì o no? Ancora. È rispuntata fuori una vecchia storia di questa agendina nera. L'agendina nera. Rossa, se mai, rossa, nera, no, rossa, rossa. Allora, Andrea da Roma, vai Andrea. Ciao, dimmi. Allora, Cruciani, io mi chiedo una cosa, cioè qua la gente sta morendo e pensiamo di andare a fare la spesa 7 volte al giorno e girare per strada. Io mi chiedo, se noi ci fossimo trovati in Siria e avessimo avuto le bombe, cioè che nemmeno per strada potevamo andare, cioè cosa facevamo? Cioè, ma me lo dici? Certo. Allora, cioè, cosa stai dicendo? Cioè, stai dicendo che c'è troppa gente in giro? Che cos'è? Sì, certo. Perché sappiamo che a casa siamo al sicuro. Se fossimo stati in guerra, nemmeno a casa saremmo stati al sicuro. Cioè, saremmo stati sottoterra, probabilmente. Chi sottoterra perché è morto, chi sottoterra nei bunker. Però io sono d'accordo con te. Non so, sono d'accordo con te perché abbiamo scelto questa strategia. Allora, a questo punto la dobbiamo perseguire fino in fondo con coerenza, non lasciando buchi incredibili con la gente che fa il cazzo che vuole. Perché questo è il punto. Abbiamo scelto questa strada, e questa strada, e lo dico anche seguendo le indicazioni del grande Vate, che è il governatore del mondo, De Luca. Cioè, se uno persegue una strada, la strada non può essere piena di buchi con quello che dice una cosa. Pure Spadafora, che ha detto che forse blocca le passeggiate o blocca le uscite, diciamo, in libertà delle persone. Se la gente non capisce, ma da non sola, puoi annunciare, ma il governo, ma non puoi dire se come, quando lo fai o non lo fai. Ma che roba anche è? Anche Fontana l'ha detto in tutte le lingue del mondo. Ma che c'entra che l'ha detto? Ma posso criticare uno che annuncia? Spadafora non deve annunciare, deve fare un decreto. Se tu esci, hai bisogno per forza di una legge per dirti che certo, non devi andare. L'esercito, no, la legge, la polizia, cioè, che ti prende. Abbastanza, no, no, non no, hai abbastanza senso civico, no, da dire, ma forse glielo vuoi non dire tu, Andrea, a glielo vuoi dire tu. Noi siamo un popolo. Niente, si sente un cazzo, dai, come al solito. Mario da Roma, Mario da Roma. La gente senso civico, certo, sa, ma la fellazio il rabbino gliel'ha fatto, è inutile che lui nega. Quello e dice sicuro. Che è una cosa, non il rabbino, che un medico. Volevo dire, Testina, volevo dire una cosa. Dimmi, vale. L'altra volta mi hai deriso quando ho parlato della donna cinese col Papa, no? Della donna cinese? Eppure, la donna cinese che ha strattonato il Papa. Eppure il giorno dopo, solo il giorno dopo, la Cina annuncia il virus e chiude il mercato di Wuhan. Sì, ma ora che la domanda che adesso? Voglio fare, cioè, tutto stai nasce, zitto, tutto... stai zitto, questo, fammi fare questa domanda. Pazzo. Ora la allora, domanda che ti voglio fare è questa. Qual è la Cina, malattia pur mentale, sapendo del virus, Parenzo, devi stare zitto, perché uno che difende Soros, uno che ha saccheggiato l'Italia, molto, un lecchino sì. che si vende Soros, che ha saccheggiato l'Italia, deve stare lì. Bravissimo. Dico la Cina, sì. dopo che la Cina la sa Cina. Del virus, sa del virus, sì. continua a mandare i suoi cittadini in giro per il mondo. Questo è che dovete dire. Come cittadini? Mai la questo Cina, pur sapendo del virus, medici, continua i medici a mandare sono in giro l'Italia per l'Italia. Perché lo fa? Perché fa questa cosa? E lo fa a dicembre, lo fa a gennaio, a febbraio, finché non siamo noi a chiudere i cinesi, lei continua a mandare questi cinesi, vero. Eppure sa di cosa stiamo parlando. La solitudine è una brutta roba. Però questo è vero. La solitudine e la malattia mentale è una brutta roba. La solitudine e la malattia mentale è proprio una brutta storia. Ma un'arma biologica è stato un militare israeliano, sì. Parento. Ma che c'entra adesso? Non cominciare a straparlare, dai. Mario, non ho capito, ma io leggo qua che volevi parlare degli omosessuali. Degli omosessuali, che volevi dire? No, l'omosessuale parla con Parenzo, che sono la gente sua, non c'entra niente. No, ma ho letto qua. Ma, veramente no. Questo virus non colpisce gli omosessuali. Stai zitto. Stai zitto. Questo è cretino. Edoardo da Lione. A me non si può fare, disse il matto, non si può fare un discorso serio, disse quello che si metteva la mutanda in testa. Quello che si metteva la mutanda in testa disse non si può fare un discorso serio, disse quello con lo scolapiatti in testa. Allora, credo che abbiamo in collegamento il nostro urologo di riferimento, urologo Augusto da Bergamo, se non sbaglio, anzi da Treviglio. Augusto? Sì, sono io, sono io carissimo. Eccoci qui. Dimmi Augusto, dimmi tutto. No, io ho messo un filmato su Facebook e fatto un sacco di... Ah sì, come no, hai messo un filmato su Facebook in cui sostanzialmente sei mezzo nudo. Questo signore è un urologo. No, non sono mezzo nudo, stavo uscendo dalla doccia con un asciugamano e ho avuto questa ideata in quanto io, essendo urologo, provenivo da Zanzibar. Sì, ma quando? Quando questo? Settimana prima del blocco della Lombardia. Allora? E allora a Zanzibar si diceva, ma noi qui al caldo stiamo benissimo, perché sono 37 gradi, 35 gradi. Ti conveniva restare a Zanzibar, diciamo? E infatti, l'ho anche proposto alla mia compagna, ma non ha voluto, perché la fa l'infermiera, purtroppo a Treviglio, doveva rientrare. Vabbè, allora non ho capito. Allora, stavo asciugandomi i capelli e dico, ma caspita, questo coronavirus, se si secca col caldo, lo secchiamo col phon. Ma come lo secchiamo col phon, amico mio? Però non è così, a parte che non si sa ancora se si può seccare col caldo. Cioè tu poi sei un urologo, un medico, cioè ti sei messo col phon a farti calore, a buttare calore dove? In che zona? Innanzitutto nelle ascelle, perché le ho bagnate. Poi ho pensato di asciugarmi naturalmente anche i genitali, che in genere sono più umidi. E sono stato anche criticato da colleghi per questo asciugamento dei genitali, in quanto non c'entrerebbero nulla con la contaminazione. Non è vero. Allora, alla fine ho fatto dei gargarismi. Come dei gargarismi? Come dei gargarismi col phon, scusa? Cioè, ma tu fai l'urologo, sei una persona seria, sei l'urologo. Ma certamente, hai fatto dei gargarismi col phon. Esatto, ho messo il phon davanti. Vabbè, meglio il phon dell'urina, meglio il phon dell'urina a questo punto. E chi è Parenzo? Questo mi Parenzo, lo so. Dico, siccome è una galleria di decorticati che chiamano. Augusto è una persona seria. No, ma non mi riferivo a lei. A lei. Dico, siccome in genere Parenzo, su 10 telefonate, 9 sono decorticati. Lei dice una cosa anche ragionevole, cioè fare i gargarismi col phon in tutto il circo della giornata mi sembra la cosa più ragionevole che ho sentito. Ma quale gargarismi col phon? Ma che stai dicendo? Allora, non lo so, tra tutte le follie che abbiamo sentito, centimetri, si apre la bocca, si fa il gargarismo, si seccano le fauci. Un eventuale attecchimento del virus viene ucciso. Ma non è vero, non viene ucciso niente, ma è sta follia. Per quanto riguarda i genitali, ma tra le tante cose, sai, per quanto riguarda i genitali, avete parlato di omosessuali, di fellazio, avete parlato di pullilintus nelle telefonate precedenti. Vi racconto la storia. Sono stato criticato da un collega e al collega ho detto, ragazzi, ma la salivazione dei genitali che venga fatta dagli omosessuali o comunque anche nei rapporti casalinghi invertiti, no? Cioè la fellace piuttosto che con il cunnilintus, sono veicoli di infezione nell'uretra o la vulva, viceversa. Non ho capito, secondo te il cunnilingus o il pompino possono attaccare, possono portare il coronavirus? Certo. Ma certamente, la saliva certamente lo può portare. No, la saliva no? Sì, ma voglio capire, se tu, se tu infettato, lecchi la... Mettiamo che tu sei... il cunnilingus con la mascherina, no, capito. Ma questo non c'è dubbio, però scusami Edoardo, sì, scusami Augusto, se, Augusto, tu, se, Augusto. Tu sei, se tu sei lì con la tua compagna, mettiamo che tu... ovviamente è un'ipotesi, ma tu sei, certo. Sei positivo, ok? Esatto. Sei positivo e tu lecchi la figa alla tua compagna. Esatto. Cioè, secondo te io la puoi attaccare? Ma certamente. No, solamente con la, solamente, allora, solamente stiamo parlando, certo, con un urologo, solamente con la leccata, certo, di figa? Solamente con, allora, la leccata di figa? Allora, lascia perdere altri contatti. Cruciani, sono tre le vie di contaminazione. La via orale, la via canalicolare, che può essere anale o urefrale o vulvare, ma non la credo. Via linfatica e la via sanguigna. Quindi un germe, un virus che arriva nell'abito vulvare o nell'uretra maschile, quindi nel meato uretale esterno, della mucosa, dunque anche nel sistema linfatico. Cioè, mi stai dicendo da urologo, che anche il pompino può portare, il coronavirus. Bravo. E dunque tu ti sei, col phon ti sei, che hai fatto? Hai seccato l'eventuale virus. Esatto. Fermi tutti, resta lì Augusto, Augusto Rippa, urologo from Treviglio, fermi tutti. La zanzara. Io così a fine anno non ci arrivo. Ma che c'è da dire? Rapicosce magari e siamo soldale? Buttona. Tanto ne qui non mi sapete che pisce tanto. Non mi ha vediato niente. Ma che virus, vero virus, lo faccio pure io, sono buttona. Tutta un coglionella. Comunque ragazzi, c'è gente che pure da posizioni importanti nel mondo della chiesa dice delle cazzate incredibili. Padre Bartolomeo Sorge, sfido chiunque a negare il fatto, senti sta roba, sfido chiunque a negare il fatto che la diffusione del virus in Italia sia cominciata non da un porto riaperto ai naufraghi, ma dalla regione più ricca. Che suona bene come cosa, no? Suona molto bene a qualcuno, no? Che è della sponda filo ONG, diciamo, no? Sfido chiunque a negare il fatto che la diffusione del virus in Italia sia cominciata non da un porto riaperto ai naufraghi, ma dalla regione più ricca. Ma che cazzo c'entra? Ah, forse dici che è per sfatare il luogo comune delle malattie che le portano gli immigrati, esattamente, eccetera, esattamente, eccetera. Esattamente. Quello che si è detto per tante e troppe estati. Poi ci sono scrittori, scrittrici, non conoscevo nemmeno l'esistenza di questa qua che si chiama Fuani Marino. Qualcuno di voi conosce questa qua che si chiama Fuani Marino? Boh. Qualcuno la conosce? No, una scrittrice, una che ha fatto un libro per Inato. Sì, lo so, nessuno sa chi è. Però ha scritto dei libri, È una giovane, tra virgolette, intellettuale, scrittrice. Stiamo sacrificando cose imprescindibili come il diritto all'istruzione, la socialità, infine l'economia di un paese in nome degli over 75, che è una cosa un po' sgarbiana, se vogliamo, no? Una cosa un po' sgarbiana. Cinica. Ne ha detta un'altra, adesso la vado a ripescare, ne ha detta un'altra completamente fuori dalla grazia di Dio, anzi me la ricordo, credo che ci sia il diritto a prendersi il virus. Lei se lo prende lei. No, lei dice c'è anche il diritto di uscire, e prendersi il virus. È un mio diritto prenderlo. Non credo proprio. Vabbè, no, se vuole prendersi lei, ma però dopo non si faccia curare dal Servizio Sanitario Nazionale. No, attenzione, in questo caso non c'è un diritto. Io, per esempio, secondo me c'è un diritto a drogarsi, no? Un diritto a farsi una pera, il diritto ad ammazzarsi di cocaina, il diritto a fumare le canne, eccetera, eccetera. No, perché razza di diritto è una libertà. No, una libertà, libertà, no, non diritto è un diritto nel senso di libertà. Dopodiché non c'è però la libertà di prendersi il virus, perché quello là ricade su tutti noi. Uno potrebbe dire anche la droga ricade su tutti noi, anche alla fine. La droga, sì, ma anche quello è un altro discorso. L'ubriachezza molesta, va bene, Eravamo sempre con Augusto, il nostro urologo di riferimento. Caro Augusto, dunque, ripetimi un po' la cosa, falla un po' riascoltare bene. Ti sei passato il phon dappertutto, anche nelle zone intime, eh? Hai fatto dei gargarismi di phon, di calore in gola, perché in questo pranzo e cena, prima di mangiare, prima dei pasti. Cioè, tu praticamente la cattività genera follia, infatti, la stare in cattività genera anche queste questa ho modificato la metodica in queste 24 ore, invece di asciugarmi col phon anche le labbra, ho creato un imbuto di carta in modo da superare la secchezza delle labbra e portare direttamente il caldo alle fauci. Ma scusami, ma tu sei così sicuro? Occhio a non usarlo mentre si fa il bagno, il phon nella vasca da bagno, stia attento a non usarlo. Scusami Augusto, però non ho la vasca. Scusami, però tu sei così sicuro che immettendo tanto calore dentro la gola riesci ad ammazzare il virus killer? Semmai si fosse assolutamente convinto. Ma ho capito, però non è tu possibile. Tu ti ricordi la trasmissione Portobello del grande Enzo Tortora, in cui c'erano l'antesignano della corrida di Corrado e poi del Gottardo di Gottardo? Cioè, sono le cose semplici, elementari, banali, economiche, c'erano questi scienziati che travolgono il mondo, tipo l'acqua calda, tipo il l'uovo di Colombo. Sono le stupidate che diventano invece soluzioni. Tu sei così convinto che immettendo calore dentro le tue fauci, semmai ci fosse una goccia o semmai fosse entrato il coronavirus, riesce ad eliminarlo. Ti ricordi quello che voleva togliere la nebbia dalla pianura padana? Da Tortora, quello che voleva inventare una grande finestra per creare una mega corrente d'aria in pianura padana e togliere la nebbia. Ma questa non è una cosa enorme, la mia è una cosa banalissima, semplice, personalizzata, fatta in casa, economica, elementare. Ascolta, ma lei continui Parenzo, con le sue ricerche. Volevo dire al Parenzo che sarà anche una sua cultura, ma non sicuramente in campo medico. Quanto ci mette, caro Parenzo, a fare il giro del nostro corpo il sangue? A fare il giro del nostro? Il nostro corpo, il sangue, 5 litri di sangue, quanto ci mettono a fare il giro completo del corpo? Ah, questo non lo so. Quanto ci mette? 50 secondi. Allora? Sai quanto ci mette un'iniezione fatta in vena nel braccio ad arrivare alla lingua? Il sapore di una sostanza iniettata nel braccio ad arrivare alla lingua? Ci mette 15 o 20 secondi. Ma questo per dire cosa, amico mio? Per dire che il coronavirus iniettato nell'uretra o nell'ampolla rettale, in caso degli omosessuali, che sono eventualmente portatori sani o contaminati, ci mette pochissimo a arrivare ai polmoni. La via canalicolare e linfatica o sanguigna arriva dalla via cava al fegato, dal fegato al cuore, dal cuore ai polmoni, nell'arco di quasi più o meno un minuto e mezzo. Allora in questo caso, scusa, non vale un cazzo nemmeno il tuo metodo, però. A che serve il tuo metodo? Il mio è preventivo. È preventivo. In che senso è preventivo, scusa? Io se penso di aver contatto il virus, mi faccio la fonata e sono a posto. Così, ma ho capito, ma il virus è già la cosa drammatica è che ci crede. La cosa drammatica è che lui ci crede. Questo è del dramma vero. Sapere chi ci crede alla vitamina C, chi ci crede alla tachipirina, chi ci crede all'antireumatico di Napoli. La tachipirina che c'entra? Se hai la febbre, la tachipirina ti butta giù la febbre. Ma e questo è evidente. E invece il caldo ti ammazza il virus. Vabbè, ciao Augusto, ti abbraccio. Ciao. Ciao carissimo. Ciao. Chi era quel cretino di poc'anzi? No, non è un cretino, quello è un urologo di spessore. Comunque è un dottore del cazzo, se ci pensi. L'avvocato Trucco mi dice: anche a me hanno detto che con non so che cosa bollenti, su fumigi bollenti si elimina il virus. Non so che cazzo vuole dire. Ma dicevano anche di bere bibite calde. Edoardo da Lione, vai, Edoardo da Lione. Dimmi, oh, parliamo un po'. Sì, parliamo un po' di figa, perché qua sono 24 giorni che non trombo, e cambiamo un po' argomento perché sto coronavirus ci ha scassato le palle. Allora, amico mio, ma tutto il mondo è terrorizzato, la gente sta in casa, è vero. Pure io sto a casa. L'attività di prostituzione, l'attività sessuale è ridotta alle mura casalinghe, il che è una disgrazia assoluta. E io non posso nemmeno, perché tu sei single? No, la mia ragazza sta in Italia, io sono in Francia, quindi... E come cazzo fate? Come fate? Sta a Lione lui. Non possiamo, devo aspettare che finisca. Ma non ho capito, ma ci sono i telefonini, hai il wifi a casa, immagino di sì, no? Ovvio. Beh, hai il wifi a casa, la chiami, è un bel video, qualche volta è anche meglio. Ma qualche volta è meglio, lei... Ma che cazzo dici? Ma tutta la vita, ma certo, ma è molto... Da quanto tempo? Ma ficcare meglio. Ma certo che ficcare in generale è meglio, ma da quanto tempo ci stai? Sei anni. Ma sei anni è meglio, ma è meglio passare un periodo con la videochiamata e farsi e masturbarsi con lei che si fa un bel ditalino. Scusa. Ma perché? Sei anni. Ma tutta la vita, ma certo, assolutamente, uno di fronte all'altro, qui in questo caso con la videochiamata, e uno si masturba, lei si masturba, e scoprite magari delle cose straordinarie che prima non avete mai scoperto. Ma che cazzo devi scoprire? Ma che trombi a fare dopo sei anni? Cosa trombi a fare ancora dopo sei anni? Cosa trombi a fare? Per scopare. E chiedi a Parenzo, pure lui cosa fa dopo 40 anni? No, ma Parenzo è come te, devi fare? È una tragedia. Vabbè, Edoardo, allora? No, ti volevo dire delle puttane che ci stanno qua a Lione. Comunque io non ne faccio uso, come avrei capito. Però devo dire che in Italia siete molto più fortunati. Molto molto più fortunati. Perché non ci sono prostitute? No, sono vecchie. Ma che ne sai tu? C'è un mercato. Il mercato online ormai è diffuso ovunque. Figuriamoci se non ci sono delle grandi fighe pure a Lione, giovani come le vuoi tu. Io ti parlo. Sì, vabbè, ma quelle lì ok, ma io ti parlo di quelle che trovi per strada. Ma quelle che trovi per strada in generale sono sempre più scarse di quelle che trovi online, no? No, ascolta, fatti un giro a Lomazzo Novara, guarda quelle che ci sono lì e dimmi se non sono uguali a quelle che ci sono là. Guarda, Edoardo, ciao. Ragazzi, grande collegamento con gli Stati Uniti, dove c'è Michela Morellato. Ah, eccoci, la Michelina. Ciao, Michi. Tesoro, come va? Vabbè, ragazzi. Va, sì, hai ragione. Comunque ho riscoperto i giochi da casa, perché ora sono tornata in casa col marito. Ogni tanto chattiamo io e Michelina di notte, per scusami, esempio. Michela, è vero che piacevole. C'è stata una corsa, all'acquisto di armi, come ho letto un po' dappertutto negli Stati Uniti, c'è la gente in coda ai negozi di armi. Che caso ci fanno con le armi contro il coronavirus? Non ho capito. Perché da quello che ho capito hanno paura degli sciacalli, perché dicono che quando se dovesse mai finire tutto il cibo la gente viene a rubare a casa tua e tu devi essere pronto a sparare. Questi non vedono l'ora che ci sia lo zombie apocalypse qua. Addirittura. Non si sono preparati, ma sì, ma dei miei vicini di casa che si vantavano che mi hanno fatto vedere i pistoloni, però quelli veri, i pistoloni, non i piselli diciamo di carne, cioè le pistole. No, quelli di carne. No. Le pistole e quelle mi hanno vere. Fatto vedere questi mega, sì, la pistola, sì, ma avevano anche proprio rifles, come si dice, quelli, sì, fucili, sì. Quelli da guerra, quelli proprio per andare in guerra. Tu hai scritto sti cazzo di americani. Tu hai scritto sti cazzo di americani con pistoloni, tutti in fila per le cartucce. Entrate in casa di mamma Michela che ha uno strapon gigante. Vi inculo come un'italiana sa inculare. Ma perché ti è venuta sta cosa? Non ho capito. Però, prima domanda. Ma la signora sempre. Ma no, ma scusa, parente, scusa, sono stata sboccata. Però sono stata presa dal panico. E di certo non ho nessun pistolone in casa, l'unica cosa grossa che avevo era lo strapon che usavo i tempi quando ero più giovane con le mie amiche, capito? Quella perché era ancora hai lo strapon? Qua a casa ce n'è uno, ma è ancora dei vecchi tempi, dei ricordi. Perché tuo marito non te lo fa usare lo strapon? Dai, con mio marito non mi fa usare niente. Ma però adesso ho fatto un gioco in scatola, è quello con i dadi dove ci sono tutte le posizioni sessuali, no? Cioè, ho cancellato la missionaria con l'acetone e ci ho disegnato un dito con un buco e spero sempre che venga fuori quella posizione lì, ma tanto non penso che me lo farà fare comunque. Cioè, ormai, che cosa vorresti fare? La solita cosa? Cioè, lo sai, te l'ho raccontato, che non mi lascia mettere il dito. cretino nel posto dietro, figuriamoci lo strapon, figuriamoci lo strapon. Senti, non ho però, capito. Però non vedo l'ora di metterglielo dentro a qualche americano che entra in casa mia, veramente li prendo, li leggo, li torturo. Ma che speriamo di no, speriamo che non entri nessuno. Non ho capito una cosa, come passi il tuo tempo? Hai il sesso con tuo marito in questo periodo che siete anche voi siete rinchiusi dentro casa? No, c'è molta più attività, c'è molta più attività, sì. Cioè, perché sono stata una cattiva ragazza e quindi ho chiesto di sculacciarmi e mi sta diciamo dando grandi soddisfazioni ultimamente. Cioè ultimamente avete con questa clausura volte? Avete riscoperto un po' più di sesso tra di voi? Sì, c'è più intimità, magari anche perché non posso uscire, quindi lui è anche più contento, è più tranquillo quando non esco. Beh, sicuramente, te credo. La signora è abbastanza allegra, la signora. Scusami un attimo, quante volte lo fate al giorno? Anche più di una? No, due volte siamo riusciti, ma con i bambini è difficile perché sai com'è l'attività con i bambini, è molto difficile, poi a me piace, sono anche un po' rumorosa e quindi... Tu sei molto rumorosa, cioè quando godi per esempio come fai? Cioè c'è un verso particolare che fai... come fai? Io proprio, guarda, ti faccio sentire il letto un attimo, lo senti il mio letto un attimo? No, non sento. Senti il letto che sbatte sul muro per bene e poi faccio un bell'urlo di passione. Cioè, ma com'è il tuo, diciamo, il tuo urlo di godimento quando vieni? Cioè, perché riesci? Italiani! Dovrei in questo momento avere il suo membro dentro e usi lo strapon. No, lo strapon no. Però lo strapon che c'è serve per altro. Senti, volevo capire una cosa, ma hai comprato dei vibratori, c'è qualcosa di nuovo in casa tua? No, ho preso un po' di cose. Sì, sono stata al sexy shop, ho preso un po' di giochi nuovi, non avevo mai provato le pinzette, però non è che mi piacciono molto. Come le pinzette? Le pinzette per i capezzoli. Ah, le comprate pure quelle? Sì, ma sai, adesso dopo i 30 anni ho detto beh, proviamo a fare un po' di cose sadomaso, no? Ma però, le provate o no le pinzette? No, le ho provate anche ieri sera, però non è che magari devo abituare il capezzolo che non è abituato. Ottimo. Ma le provate con lui o da sola le pinzette? No, prima da sola hanno fatto un po' male, poi ho detto magari le provo con lui e mi piace di più, invece non mi piacciono proprio. Infatti non ti piacciono le pinzette, ma invece mi pare di capire che mentre gli americani vanno a comprare i fucili, tu sei andata invece nei sexy shop a comprare i vibratori, mi sembra di capire, no? Ma sì, perché io sono più facciamo l'amore, non facciamo la guerra, cioè ma che cazzo dobbiamo... Ma poi la cartigenica, ma voi avete finito la carta igienica in Italia? Ma perché? Che è successo? C'è una corsa alla carta igienica? Che cazzo non c'è? In America? Qua hanno finito la carta igienica, tutta la carta igienica, non esiste la carta igienica e non ho capito bene il motivo, si faranno un sacco di seghe durante questo, non lo so, perché hanno finito la carta igienica. A proposito, tu hai aumentato la masturbazione in questo periodo che stai dentro casa o no? No, ti ho detto anche perché siccome c'è mio marito in casa, poi magari si può offendere, allora sfrutto lui. Sfrutti lui e basta. E che tipo di vibratore hai comprato? Anche per ha preso, aspetta. Beh, è marroncino, perché quello di prima era rosa ed era un po' più piccolo. Allora questo giro l'ho preso di un colore diverso, tanto per cambiare. No, ma che misure hai preso? No, ma è una semplice, non era niente di che. Era una misura perché ho pensato magari facciamo qualche gioco nuovo e fantasticando così che c'è un'altra persona nel nostro letto potrebbe sorprendermi da dietro, capito? Però ovviamente siccome non ho un sedere da porno attrice, ma sono ancora diciamo quasi vergine. Vabbè, lui si è eccitato o no? Questo è importante. Si è eccitato tuo marito o no? Molto, molto, molto. Ma adesso sto creando tutti questi giochi perché dopo diventa una noia. Lo so. Anche noi qui in Italia. Anche noi qui in Italia, amica mia. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. 2020 anno bisesto, anno funesto.